Allora parlo con la zanzara, Radio ciao 24. Belli, Radio DJ. DJ Angelo Roberto Ferrari. Da Foggi, provincia di Cagliari, vicino a Cagliari. Sono molto felice di parlare con lei, dottor Cruciani, che sì, tra l'altro. Vabbè, dai. Tra l'altro, dottor Cruciani, dai gossip leggo che lei è un cacciatore di figa, no, niente no. Male, cazzo. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Se ci voterete vi risparmierete un mucchio di parole inutili. Campagne elettorali, manifesti colossali, tante facce sorridenti così. Non fidatevi di internet. Ma lo sai, Davide, che è rispuntato dalle liste elettorali di nuovo candidato alle elezioni europee? Caro Davide, tu non ci potrai credere. Sì, tanti ovviamente, ma non ci potrai credere. Un personaggio a noi noto, un personaggio che ha fatto la storia di questa trasmissione e che viene di nuovo alla ribalta dalle liste della Lega Nord, Erminio Boso, il vecchio Obelix. Ma io sono quello che avevo chiesto che per controllare il movimento extracomunitario si rimettevano sul ghiacciaio del Monte Bianco, così il riflesso del bianco e nero si poteva vedere. Ho le impronte dei piedi, perché ho veramente visto che la criminalità si cancella le impronte digitali, c'era da controllare, planteare che negli stati più avanzati del mondo viene usato per il controllo delle persone. E chissà che non ce la faccia ancora il vecchio Boso, che in questo caso diceva che gli immigrati extracomunitari clandestini devono essere portati in un ghiacciaio. In un ghiacciaio. Come funziona questo centro immigrati in un ghiacciaio, Erminio Boso? Beh, o le porti su da mangiare, li metti dentro nel reticolato, li tieni sotto controllo, invece che mantenerli gratis li metti là a spaccare un po' di ghiaccio, no? Basta che tu le dia le scarpe per rimanere asciutto. Beh, basta portarle sulla brandina, ragazzi, una tenda, ce ne sono tanti che vivono nelle tende. Una volta Boso qui da noi disse apertamente: sì, è vero, io sono razzista. D'altra parte non è che ci fosse molto dubbio, A casa mia è un razzista, a casa mia. Ma io sono razzista, non mica mai negato di essere razzista, è stronzo. Vabbè, Erminio, non mica mai negato io, Cioè, tu non ti faresti curare perché di colore, cioè ti dà fastidio il fatto. No, perché è una strana a casa mia, io dagli estranei non mi faccio curare. Ma campagne elettorali, manifesti colossali, tante facce sorridenti così. Marione Borghezio invece è stato un po' penalizzato, diciamo la verità, David. Beh sì, la Lega dovrebbe prendere il 7% perché lui riesca, no, a... No, il 7 magari no, il 7 magari no, però qualcosa in meno, qualcosa in meno. Gli hanno fatto un bel regalino anche perché gli hanno candidato in Piemonte l'altro personaggio del circo equestre Padano, quindi comunque non parlare male del mio amico Bonanno, non parlare male del mio amico Bonanno. Ti rendi conto chi cazzo mandiamo, c'è il rischio che mandiamo in Europa? Ti rendi conto? Ma ti rendi conto dove si fa il 75% delle leggi che influenzano il nostro paese, sì, e noi mandiamo uno come Toso? Mandate a fanculo, guarda. Pericoloso internet. Allora, Borghezio, candidato nel centro, molto complicata la corsa di Borghezione. Se la prende sempre solo con la gente onesta che lavora, siamo... Padania libera, del resto non ce ne frega un cazzo. Ma Filippo da Grosseto. Padania libera, libera, libera, subito, ieri, libera Roma, puzza, Roma puzza, solo la Padania, solo, sempre solo la Padania, se gli altri non ce ne frega un emerito cazzo. Padania libera, libertà, libertà, libertà. Non riesco a fermarlo. Beh, questo sfogo fu geniale, Questo sfogo fu geniale di Borghezione. A Strasburgo, no, Strasburgo. Invidioso di non essere in galera con i separatisti, Borghezione. Beh, io dico che quando nel mondo la canaglia impera, la casa dell'indipendentista è la galera. sono invidioso di non essere in galera con loro e andrò a trovarli al più presto, perché questi sono cittadini onesti e per bene. Non sono altrettanto certo di coloro che li hanno mandati in galera. Loro sono per bene. Loro sono onesti. Loro sono coraggiosi. Loro sono gente con le palle. A differenza di quelli che dietro una scrivania pretendono di mettere il bavaglio a chi parla di libertà. Tutta colpa di sto internet. Vabbè, usciamo fuori dalla Lega, caro Parenzo. Scorrendo le liste dei candidati alle elezioni europee di maggio, c'è anche il tuo amico Furlan dell'esercito di Silvio. Però pure, bisogna dire, tu eri molto scettico all'inizio, invece questi qua un po' sono cresciuti, hanno raccolto un minimo di consenso, da te che questo Furlan viene candidato. Sì, tu dici pure, però ma chi deve candidare se non Berlusconi in Forza Italia? Quello che ha fatto l'esercito di Silvio mi sembra una cosa assolutamente naturale. Ma qualcuno che conosca una lingua, che sappia qualcosa di legislazione europea, qualcuno che si interessi di trattati internazionali, l'esercito di Silvio. L'esercito di Silvio! Furlan dice: ho la foto di Berlusconi come un santino. Lei ha a casa sua, nel suo comodino, una foto di Berlusconi o no? Sicuro. E secondo lei può mancare? Ma sul comodino? È come un santino con il lume sempre acceso. Ma no, ma dai, non ci ma credo. Ma è morto però. Ma no, scherza. Ma no, ma dai. Anche in ufficio io al posto della foto della moglie e del mio cane ho quella di Silvio. Risparmierete un mucchio di parole inutili. Campagne elettorali, manifesti colossali, tante facce sorridenti così. E c'è chi paone? Allora, c'è chi pure abbiamo già detto nei giorni scorsi, no? Il suo programma totalmente diverso da Forza Italia, i matrimoni gay, addirittura quasi l'eutanasia, eccetera, eccetera. Però voglio ricordare qui, in questa puntata speciale di Pasquetta, un suo mitico scazzo con Vittorione Sgarbi. Beh, indimenticabile. E non parlare male dei preti, no. Dappertutto, nelle missioni, dove ci sono i poveri. Assolutamente. Tu non hai fatto no. un cazzo, non i preti. I preti cattolici con hanno salvato milioni di bambini. Con i anche soldi tutti degli e sempre. E non parlare con della Chiesa. Ateo bastardo, ateo fasullo, ateo fasullo, ateo fasullo. Grande esempio non di cattolico. Esempio, grande non di coglione come cattolico. Te, che parli male dei preti. Grande parli esempio male di cattolico. Stesso. Parla male di te stesso. Questo è un cattolico. Io non sono affatto cattolico. Tu sei cattolico una merda doc. Secca. Quello sei tu. Cattolico che, doc. Qual è cattolico doc? Cattolico parli doc. Parli male dei preti invece di rispettarli. Così nascono sì, e crescono sì, quelli che vengono educati dai preti. Questo è il frutto di un'educazione sì, cattolico-italiana. Parla male dei preti. Non c'è questo è il frutto c'è di un'educazione cattolica. Dei preti che tu non hai. Tu questo non hai è il nessuno. Frutto dell'educazione cattolica. L'esibizione della tua oscena bisessualità. Ridicolo sei. Hai fatto il prete per tanti anni. Sei. Io sono qua, sono là. Rispetto ai preti. La gente inizia a credere che non siamo persone di cui ci si può fidare. Però pure a sinistra c'è qualche personaggino, vediamo il vicepresidente del Parlamento Europeo Gianni Pittella. Speriamo che il suo inglese nel frattempo sia migliorato, ce lo ricordiamo tutti, è di nuovo candidato nella lista del Partito Democratico, ce lo ricordiamo tutti in una grandissima esibizione nella lingua britannica. Dear all, on 28 November 2011 an historic event happened at the EU Parliament in Brussels. The first ever peace declaration was signed here. Pessima invenzione internet, se la prende sempre solo con la gente onesta che lavora, siamo qui. Abbiamo già un ospite collegato in questa Pasquetta della Zanzara, l'estrema sinistra, quella lista là pure un nome complicato, Tsipras, la sentiamo Vendola perché dopo c'è una sorpresa, Vendola Tsipras. L'altra Europa con Alexis Tsipras, tutto il resto è troica. Cioè, l'altra, hai capito il gioco? L'altra Europa, Tsipras, tutto il resto è troica. Cosa ti ricorda? Cosa ti ricorda? Tutto il resto? Ma tutto il resto è troica. Sì, ma cosa ti ricorda? Ma le battute non vanno spiegate, no? È chiaro, tutto il resto è? Che qual è troica, la? Sì, troica. Ma qual è il riferimento a questa cosa? Qual è il riferimento? Alla troica. Sì, mio nonno in carriola, tutto il resto è noia, tutto il resto è noia. Allora dall'alto abbiamo interpellato il nostro mitico Franco Califano. L'altra Europa con Alexis Tsipras, tutto il resto è troica. Tutto il resto è troica. sto troia, ma troica, troica, troica, maledetta troica. Di nuovo alla Zanzara, finalmente candidato, il commesso di Forum, la terza C, Fabrizio Bracconeri, buonasera. Buonasera, buonasera a voi, auguri a tutti, auguri di buona Pasqua e Pasquetta a tutti quanti. Come andiamo? Molto bene, grazie. Lui come va, Peppe? Beh, combatto. Parenzo? Tutti combattiamo. Hai visto? Hai visto che candidati ti tira fuori Crosetto, Meloni, eccetera, eccetera? Hai mangiato la colomba, caro candidato Bracconeri? L'hai mangiata, sì, la colombina? Sì, la colomba l'ho mangiata. Anche però devi dimagrire un po', Ma no, è dimagrito. È ancora, dimagrire ancora. Ma è magrissimo. Vabbè, se continua il suo governo ci dimagriamo per forza tutti quanti, diventeremo un popolo di magri. Addirittura, perché dici così? Beh, dopo tutte queste cose che succedono qui, che deve succedere? Non si riesce ad arrivare a fine mese, perciò voglio dire, o si stringe la cinta per forza e non si mangia più. Senti, ma chi sono quelli là che tu dici essere gli zozzoni? A casa gli zozzoni, chi deve andare a casa? Gli zozzoni sono coloro che non fanno gli interessi del popolo. Ma chi sono? Sono chi ci ha governato. Nomi, cognomi, Bracconeri, dai. Diciamo, vabbè, ora Zozzoni, voglio dire, se si parla così in generale va bene, ma se si parla di darlo proprio una persona, io direi proprio da cominciare. Cioè, il capo degli Zozzoni chi è? Il capo degli Zozzoni, secondo me, è il presidente. È il presidente, il capo degli Zozzoni è napolitano, dici te. Non voglio dire che non, però insomma, non si è comportato molto bene per il popolo. Perché? Che ha fatto napolitano? Beh, ma ti sembra giusto che si metta a capo del governo, si cambia, si è funzionata, ragazzi, per favore, non scherziamo su queste cose. Cioè, chi ha fatto? Il popolo ha diritto di scegliersi. Ah, di votare, dici tu. Sì, di scegliersi chi... Capito, Parenzo, il capo degli Zozzoni, secondo Bracconeri... Ma può un simpaticissimo attore caratterista che ora vuole fare il politico dire una fregnaccia simile? Allora, io voglio dire una cosa. Aspetta, fai parlare Parenzo. Ma io gli voglio veramente bene, perché sono cresciuto con lui, con la sua comicità, e apprezzo che lui oggi voglia impegnarsi in politica. Ma può dire che è uno zozzone il capo dello Stato? Ma si può dire tutto. Ma uno allora può fare anche la pipì davanti al Quirinale, può andare in Europa e dire e mettersi a defecare davanti all'Europarlamento. Si può fare ormai tutto ormai, capito? No, ma Giscard d'Estaing si sta rivoltando. Aspetta, Fabrizio, un attimo solo, traffico, torniamo subito. La Zanzara. Fabrizio Bracconeri, candidato con Fratelli d'Italia al Parlamento Europeo, la cosa è abbastanza incredibile, esordì con "io so da Roma". No, ma è incredibile. Scusa, nel senso... voglio dire una cosa, innanzitutto devi stare esagerando, perché sozzone nel senso che colui che fa sozzate a confronto del popolo. Vabbè, perciò, quello è certo, non è che è sporco, ecco, certo. Uno, zozzerie, fa delle zozzerie. Non riesco a capire perché in Italia uno per fare politica debba per forza essere riconosciuto, ma da chi? Che abbiamo mandato in Europa i peggiori, e non lo dico io, l'hanno detto tutti i partiti, che in Europa abbiamo mandato i peggiori. Chi abbiamo mandato? Coloro che devono svernare, cioè coloro che avevano dato già tutto alla politica italiana, sì, e sono andati a dare il peggio nella politica europea. Hanno firmato trattati che noi italiani dobbiamo accettare, perché con la loro sonnolenza in Europa hanno firmato fogli. Come fai quando vai in banca, il direttore fa firmare fogli che tu neanche leggi, come fanno le assicurazioni? Ma che hanno firmato? Il fiscal compact, hanno firmato di tutto, questi ci hanno fatto rovinare. Ma quello è stato approvato in Italia, senza sapere, scusami Peppe, siamo entrati in Europa senza sapere, solo perché ci hanno fatto credere che entrarci diventavamo tutti ricchi, più belli. Adesso siamo alla distruzione. Non si può fare. Adesso il popolo ha diritto di parlare. Secondo me, per fare... Il popolo, com'è la storia? Il popolo ha diritto di parlare, dici tu. Il popolo ha diritto di parlare. Oramai qui non... Ma tu ti senti interprete del popolo? No, io mi sento... sento un uomo del popolo, perché io so che vuol dire fare la spesa, perché ho 4 figli, ho una famiglia, non ho mai rubato i soldi allo Stato, non li ho mai rubati, ho sempre lavorato e non ho mai guadagnato cifre astronomiche. Per cui, per queste. Esempio, gli zozzoni non hanno mai, sono quelli che sono... sanno quanto costa la benzina che c'hanno le macchine blu e gliela paghiamo noi, ma che ne sanno quanto costa l'assicurazione alle macchine, ai motorini? Oggi è difficoltoso anche vivere. Un attimo solo, Parenzo. No, scusami, però ma noi non dobbiamo mandare in Europa gente che sa quanto costa un pacco di pasta. Dobbiamo mandare in Europa gente che sappia fare le leggi. Ma tu lo sai cosa succede al Parlamento Europeo? Che fa il Parlamento Europeo, Fabri? Che fa il Parlamento Europeo? Stabiliscono delle regole che si debbono... Che debbono, no, ma che fa concretamente? Che tipo di provvedimenti adotta? Lo sai o non lo sai? Quel funzionamento lo sai oppure devi studiare ancora? Ma no, lo so il funzionamento, ma quello che il funzionamento... Devi studiare, dai, devi studiare. Le regole debbono rispettare tutti gli stati. Beh, insomma, ma non è proprio così. Prego? No, non è che sia proprio così. Cioè, tu la sai la differenza, che ne so, tra una risoluzione, un'interrogazione, una proposta... Di... Cioè, ma... bisogna che si studiano queste cose, no o no? Ma... Intanto io ancora non sono parlamentare europeo, forse neanche lo sarò mai, poi c'è tempo per studiare, intanto voglio capire quello che vogliono fare loro, perché qui adesso quello che loro ci hanno proposto e ci hanno approvato in Europa, noi lo stiamo pagando, qui non è che bisogna... Senti Fabrizio, ma chi è il tuo mito della politica italiana? Chi è stato? Al di là di Fratelli d'Italia eccetera, prima, il tuo mito nella vita, chi è stato? Il mio mito nella vita sono stato sempre io non ho mai, guarda, ti dico la verità, Berlusconi per quello che ha fatto all'inizio ha fatto capire che forse la politica poteva essere anche per il popolo, cioè Berlusconi ti piaceva molto prima? No, all'inizio quando è uscito, cioè uno che si è fatto da solo, ha lavorato, ha costruito e poi si propone, voglio dire, secondo ma me... Ma Santi Licheri come l'avrebbe giudicato Berlusconi rispetto ai giudici? Guarda, io purtroppo Santi Licheri non c'è più, per me è stato un grandissimo Santi Licheri, perché era una persona che riusciva sempre a trovare... Allora? Secondo me forse non così colpevole come lo giudica. L'avrebbe assolto, diciamo. Non lo so, forse l'avrebbe assolto, però avrebbe giudicato solo quello che ha fatto a danni del popolo. Vabbè, ma il tuo mito chi è stato? Mi sa che il tuo mito è solo Totti, diciamo la verità. Beh, questo veramente sì. Cioè il primo in assoluto è Totti come mito, no? Diciamo anche Falcao. Anche Falcao, Totti e Falcao. Piano, Totti però è più grande di tutti i tempi, secondo me. Capito. Facciamo un piccolo test di inglese a Bracconeri, che dici? No, volevo dire questo a Totti. Oltre a Totti e Falcao sì. Magari anche Altiero Spinelli e Schumann sono tra i ma non sa manco chi è Altiero Spinelli, ma ti pare che sa chi è Altiero Spinelli, Bracconeri? Ma voi volete capire o vogliamo fare i giochi? Cioè, lo sai chi è Altiero Spinelli? Non lo sai chi è Altiero? Giustamente non lo sai. Ma forse lo so. Forse lo so. Forse. Ma forse, ma qui non è che dobbiamo fare un test di intelligenza. Vabbè, come ti presenti davanti, che ne so, un altro parlamentare europeo con l'inglese? Sono, come si dice, sono Bracconeri. I am Bracconeri, candidato, ma magari lo sai inglese. Ma I am Fabrizio Bracconeri, insomma, a scuola ci sono andato pure io, non ho preso lauree per truffare la gente. Come si dice membro del Parlamento Europeo? Parliament Europe, ma che Europea Parliament, vabbè. È uguale, ma che sì, ma non è che vai lì, cioè allora cioè non è che vai lì e parli inglese, dici come pare, che lingua parli? A parte, scusami Peppe, in questo momento in Europa credo che sia la lingua favorita dovrebbe essere il tedesco, visto che si parla solo. Ma tanto quello non lo sai. No. Ma perché sappiamo tutti l'inglese? Non lo sa nessuno, ma perché quello che ha detto, quello che ha parlato Renzi è inglese. E come ci vai a parlare? Che lingua parli con gli altri? Italiano, mi porterò una persona se dovessi andarci che sa l'inglese e gli dico quello che deve dire e deve dire quello che gli dico io. Cioè ti porti una specie di traduttore mobile. Un traduttore mobile. Siccome io conosco i miei limiti, i miei figli li ho fatti studiare, mia figlia si è laureata una volta in Inghilterra e una volta in Spagna, perciò conosce l'inglese in maniera perfetta, che allora potrò farmi aiutare da lei. Comunque guarda che lì in Europa, per esempio, è pieno di omosessuali al Parlamento Europeo, che fanno coming out. Ma qualcuno ci ha mai provato con te, per esempio, un gay? Sì, ha voglia, ce l'hanno provato? Ma sono cose talmente personali che io manco di dire, ma non è che uno può fare qualsiasi cosa nella vita, poi sta l'altra persona a reagire in maniera sempre composta, perché il rispetto è alla base di tutto. La mia regola di vita è: io ti rispetto se tu mi rispetti. Rispettiamoci in maniera reciproca e possiamo andare fino alla morte. Ma tu per esempio ce lo vedi una bella famiglia con un bambino omosessuale adottato, uomo, donna e donna? No. Io no, questa è una zozzeria. perdonami, dico che le coppie omosessuali debbano essere, tra virgolette, inquadrate come una famiglia normale, però la natura, il corso della natura deve fare per forza di cose il papà. A me non piace il genitore 1, il genitore 2, per me è papà e mamma. Possono essere adottati da un uomo e una donna, perché devono capire che la famiglia è composta in questo... Comunque lo sai che Parenzo è molto più avanti di tanti altri. Della... Vabbè, ma io infatti non è che dico, dico semplicemente lo slogan dovrebbe essere... dalla Garbatella a Bruxelles, nel cuore dell'Europa. Questo può essere un po' la sintesi della Garbatella, però figurati, perché di dove sei? Di Monte Mario, un altro Monte Mario è un'altra cosa, è Roma Nord. Quale no, Garbatella? Non c'entra niente, che la Garbatella poi ha dato i natali alla mia presidente, perciò... Ah, a proposito, ma quel ritocco che fa, che ha fatto in alcuni manifesti col Photoshop, che dici tu? Io dico che non l'ha fatto, in assoluto. Non l'ha fatto, no, perché ti garantisco che anche a me, quando fanno delle foto, secondo che luce particolare c'è, che sembri diverso dalla foto stessa. Poi il fotografo stesso, quando fa la foto, magari la ritocca lui e tu neanche lo sai. Vabbè, un po' si è ritoccata nelle foto. Adesso stiamo discutendo se, ve lo garantisco, la presidente Giorgia Meloni è anche una gran bella ragazza. Ti piace appunto, a te, A me, io sono sposato, già te l'ho detto. Vabbè, ma che c'entra? A me non mi deve piacere fisicamente, a me deve piacere quello che ha in testa. Vabbè, d'accordo, ma però... Quando cominceremo a capire questo, che non servono quote rosa, ma servono quote intellettive, che intellettive, non serve fare queste stupidaggini, perché la donna deve dimostrare di essere valida in quanto testa, non in quanto femmina, basta, punto, perché se no non c'ha senso. Ma come gli uomini, non è che devi dimostrare che sei uomo perché sei più forte, devi dimostrarlo con la testa, con l'intelligenza. Rosa, rosa, rosa, se va bene rosa, ma poi invece s'appoggia proprio addosso a me. Fabrizio, grazie, a presto, ciao. Salute, buona Pasqua. Giuseppe, provincia di Chieti. Salve, dottor Cruciani. Oddio, ma sempre tu a rompere i coglioni, ma perché? Perché ci sei sempre tu a rompere i coglioni? Cruciani, oggi sono buono, dai. Dai, dimmi, dai, allora, forza. Allora, io le faccio i miei complimenti, perché nonostante tutto, nonostante tutto, cioè nonostante le male parole che dice, le stronzate, le puttanate a tonnellate. Sì, a tonnellate, sì, certo. Allora? Un po' di classe ce l'ha, ma questo dipende dal suo cognome, capito? Cioè, lei penso che ha visto il suo cognome, c'ha 4 consonanti e 4 vocali. Quindi è una persona è intelligente. Invece il suo aiutante, che è come si chiama? Parenzo. Ma, ok, cioè quello là, già il cognome, dove si presenta? Vuole mettere un Cruciani, cioè tutto scritto grande, Parenzo, cioè, chiami tu? No, ma questo qui si fa, ma questo qui anziché mangiare la colomba e l'uovo, si fa di roba pesante. Oh, Parenzo, allora oggi parlo con lei, dai. Che scuola ha fatto? Dimmi, caro, io ho fatto il liceo classico. Bravo, bravissimo. Io c'ho mio figlio che fa lo scientifico. Ma posso dire chi se ne frega con grandissimo rispetto di tutti? No, ma io lo so. No. Ma, ma Giuseppe, io perché lei, come dire, si concentra nel chiamare la... Cioè, questo io vorrei capire. Adesso, perché si sta concentrando sui nomi? Cruciani, Parenzo, le consonanti? No, ma Cruciani, lei che è super intelligente, mi faccia finire... Ma io non sono super intelligente. È ultra intelligente. Vabbè, dire? Allora... No, volevo capire, Parenzo, come c'è diventato così cretino? Cioè ce l'ha nel DNA, che è rosso, com'è? Davide, chiami tu? No, voglio dire, parlo con l'ufficio dementi? sì, evidentemente sì. Parenzo, lei sa dove starebbe bene, guarda, mo glielo ripeto. Dove? Ma siccome lei è un bolscevico proprio di quelli comunisti, oppure di DM, ma oggi sono buono, non dico di merda, DM. Tanto l'ha sempre detto di merda, lo dico io. Allora, dove starebbe bene? Starebbe bene in Siberia, starebbe bene. Se vuole, guarda, le compro il biglietto. Guarda. Sì, Giuseppe, mi sa che le compro io qualche altra scheda telefonica, così interviene più spesso. Gliele compro io la scheda telefonica, lei è malato di mente. Giornale Radio, torniamo tra poco. La Zanzara. Non mi mordere il dito, non mi macchiare il vestito, ma non mi mordere il dito. tanta voglia ce l'ho. E non mi mordere il dito, non mi macchiare il mio vestito. Siamo sempre qui, la Zanzara, puntata speciale di Pasquetta. Caro Parenzo, beh, c'è Beppe Grillo poi, Beppe Grillo. Ancora. Perché, che c'è? Pure a Pasquetta. Ma certo. Ti rompi le uova pure a Pasquetta con questo grillo. Pure a Pasquetta, che la gente è in gita con la chicetta a farsi mangiarsi il panino e tu gli rompi i coglioni ancora con questo comico. Ancora, anche a Pasquetta? Sì, certo che anche a Pasquetta. Non ho capito perché vuoi togliere la parola a uno dei protagonisti delle elezioni europee, no, al signor Grillo? Togliere, non ho capito. No. Cioè, togliere, probabilmente no. Arriverà secondo? Probabilmente arriverà secondo, noi non dobbiamo parlare? E dai, su. Però, nei giorni scorsi c'è sfuggita una cosa. Si è messo dalla parte dei secessionisti veneti. Cioè, bisogna raccattare i voti. Però non me l'aspettavo Grillo dalla parte dei secessionisti veneti. Senti. Bisogna ridare fiducia all'Italia. Allora ecco come elimini la secessione: dando fiducia alla politica, a un altro tipo di Stato. Allora con quella fiducia lì, ma con questo Stato, fanno benissimo a autodeterminarsi, andare con chi vogliono, con questo Stato qua. Gli indipendentisti veneti che si vogliono staccare dall'Italia. Ma scusate, non è la secessione, no, non va combattuta arrestando le persone. Perché nel mentre arrestavano questi 20 veneti, nello stesso momento il nostro Presidente della Repubblica riceveva un condannato in via definitiva al Quirinale. Te la dico tutta, caro Parenzo, su questo secondo me Grillo ha perfettamente ragione. Cioè, non solo fanno bene i secessionisti a manifestare le loro idee, abbiamo già detto che il processo e tutta la vicenda è un'assurdità, ma ti dirò una cosa in più, ti dico davvero una cosa in più, che alla fine, quando Grillo dice se fate il referendum sono con voi, non capisco tutto questo scandalo. No, ma il referendum non si può fare, non ci sarà mai, ma cosa vuol dire? Questo ha dato l'appoggio a questo gruppo col carro armato, le robe. Ma non ha dato nessun appoggio, dai. Ovunque, non ha... ovunque c'è casino, c'è Grillo. Comunque, anche in Germania, Francoforte. Francoforte si stacca dalla Germania. Lo fanno ovunque, ovunque. Secondo Grillo bisogna votare alla fine con l'iPhone. Ecco, questo no, questo no, ragazzi. Votare con l'iPhone non è possibile. Non avete neanche capito che abbiamo già fatto una rivoluzione straordinaria, che da tutto il mondo ci guarda. Abbiamo votato con l'iPhone. Abbiamo votato, 30.000 persone hanno votato, a differenza di questi qui che nominano le loro quote rosa. Noi non abbiamo bisogno di mettere quote rosa, perché quando dai la libertà di voto alle persone, si scelgono autonomamente metà uomini e metà donne, come sono successe da noi. E anche per decidere se andare in Afghanistan, secondo Grillo, basta un click. Ecco, io questa democrazia dei click, e che si può decidere da casa, dal computer, se andare in Afghanistan, come scegliere i deputati, devo dire che è una puttanata. Bisogna velocizzare, fare le cose in maniera più moderna, per carità, però alla fine quando si va a votare c'è l'urna, c'è l'urna con le buste, uno mette la X o mette il nome, alla fine è così. Poi ci si può evolvere, il voto elettronico, quello che volete, ma non è che i candidati scelti dalla rete siano meglio degli altri candidati scelti in un altro modo. Cioè non è che in rete ci sia la democrazia. E questo è un cambiamento epocale. Epocale. Io voglio che i cittadini con un click decidano se andare in Afghanistan, decidano se il gioco d'azzardo deve essere legale o no. Decidono dei problemi che riguardano i cittadini. Ma non mi mordere il dito. La voglia ce l'ho. Parenzo? Sì? Sì, che dici? Finalmente ti sei svegliato anche tu dal sonno dei 5 Stelle, il sonno della non ragione. Adesso lui farà anche... No, ma non è che io mi sono svegliato, è che io non ho come te l'ossessione di Grillo. No, ma neanche io ho l'ossessione. No, io guardo le singole cose, i click non mi sembrano una puttanata. Semplicemente un cazzo. Cioè non ti frega niente di Grillo. Ma no, ma cioè, niente. Non ti frega meno niente di uno che può prendere il 25%, il 24% non te ne frega niente. Cioè, lo consideri meno una sorta di... Meno di me. Cioè, secondo te è una sorta di... No, ma fallo quel paragone. Tu non sei in grado di fare... Hai paura di fare quel paragone che dicevi. Non ho paura di niente. Allora dillo, che cos'è Grillo, il partito di Grillo? Che cos'è, secondo te? No, è un partito divertente. Visto che è un comico. Ma non mi mordere il dito. La voglia ce l'ho. Allora, per alcuni Grillo è una sorta di apparizione, una sorta di guru, una sorta di mito. Noi però, in queste ultime settimane alla Zanzara siamo stati testimoni in diretta di un dialogo, addirittura con la Madonna, un'apparizione mariana, protagonista celeste. Celeste Orbetelli, San Bonico, Piacenza. A un certo punto gli appare la Madonna e arrivano le parole dall'alto della Madonna stessa, per chi ci vuole credere, ovviamente. Dimmi. Vi chiedo di pregare, figlioli. Vi raccomando, pregate sempre. Anche stasera diverse persone in mezzo a voi verranno liberate. Liberate. Non abbiate paura, figlioli, vi prego. Lasciatevi andare, vi prego. È il Signore che vi prende. Solo Lui vi ama. Non vi abbandona mai. Non abbiate paura. State con Lui. Entrate sempre nelle chiese e pregate. Pregate sempre. Pregate per tutti quelli che non pregano. Fatelo. Sono sempre qua in mezzo a voi. Stasera l'angelo veglia su di voi. Vi amo tutti. Non abbiate paura di Lui. Lui vi aiuterà e sconfiggerà ogni male da voi. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Celeste Orbetelli, non Orbetelli, Celeste Orbetelli, provincia di Piacenza, parla con la Madonna. Non mi mancare il vestito, ma non mi mordere il dito. Ci credi, Parenzo, naturalmente, no? Non mi mordere il dito. Siamo con Filiberto, Bologna, buonasera. Buonasera, dottor Cruciani, Parenzo, anzi a Parenzo in ritardo. Pesach Asher, nessuno se lo ricorda mai, ma io gli auguri glieli faccio. Ma che cos'è? Ma la Pasqua ebraica, cos'è? Esattamente. Vabbè, esattamente. Ma adesso qui la Pasqua ebraica, dai, su. Il pluralismo. Vabbè, d'accordo, la Pasqua. Volevo fare riferimento a Grillo, prima parlavate, adesso ci sono le europee, queste percentuali turche, addirittura in Abruzzo si pensa al 29%, ma voi vi siete chiesti dove finiranno i grillini nei partiti europei quando saranno al Parlamento? Ma non lo so, non mi interessa, non è un problema. Sì. Non è un problema. Quando io ero a Bruxelles si diceva che avessero preso contatti con i non iscritti, cioè i grillini finiranno con Borghezio, che era tra i non iscritti, e Marine Le Pen. Con chi finiranno, scusi? Con Borghezio, che era fra i non iscritti fino a... No, non lo so. Hanno delle idee in comune con Marine Le Pen, con Borghezio, non c'è dubbio. Alcune cose sì, altre no. D'altra parte Marine Le Pen ha polemizzato con Grillo, per cui proprio non mi sembra che siano sulla stessa barca. Quello è il gruppo con cui loro hanno preso contatti. Io li vedrei meglio. Vabbè, allora, fra i partiti pirata. E quindi voi ve lo immaginate un Parlamento europeo dove siederanno fianco a fianco Marine Le Pen con questi grillini presi dalla strada, con Mario Borghezio con loro? Sì, ma sarà una... A parte che Mario Borghezio è complicato perché è candidato in una circoscrizione piuttosto difficile. Comunque, guardi, per noi più circo c'è e meglio è. Grazie. Lores Vicenza. Allora, ciao Cruciani. Dimmi. Allora, avete passato una buona Pasqua? Beh, non male. Allora, Lores, che dice? Ritorno di voce. Va bene, andiamo ad Andria. Gianni. Sì, pronto, Cruciani, buonasera. Dimmi, Gianni. Io invece gli auguri a Parenzo non li faccio, né a lui né a quelli che lui rappresenta. Chi rappresenta, perché, scusi? Chi rappresenta? Rappresenta gli ebrei o... Ma non rappresenta assolutamente gli ebrei, non dica stronzate. È uno di loro, non li rappresenta, però... Che vuol dire uno di loro? Ma non è che è la cosa, la setta, cioè... sì, secondo lei? Io, guarda, io racconto solo un fatto brevissimo. Io l'anno scorso sono stato... Pronto? Sì, sì, dimmi, dimmi. Io l'anno scorso sono stato a Gerusalemme. Sì. A Gerusalemme, al Muro del Pianto, mia moglie è stata quasi aggredita da uno con cappello, barba e treccine, perché si era avvicinata troppo al Muro del Pianto. Sì. Dopodiché abbiamo visitato la Via Crucis, ed era piena di immondizia alle fermate che furono di Gesù Cristo. Poi siamo stati al Santo Sepolcro, era pieno di immondizia. Vabbè, allora, di morti. Ma non e dica allora, stronzate, dire, ma di che sta parlando? È stata aggredita? Aggredita da chi? Ma sarà stato un matto. Cosa significa? Uno può andare tranquillamente in quei posti senza essere aggredito. Ma di che sta parlando? Io ho detto verbalmente, non ho detto aggredito. Ma perché verbalmente? Cosa ha fatto perché sua moglie? Perché sono più intolleranti di noi. Ma di che sta parlando? Loro sono razzisti, non noi. Noi siamo solo intolleranti. E certe cose a noi danno fastidio, per cui siamo intolleranti. Ecco, solo quello. Per cui quando sento sempre che si lamenta, perché viene fatto riferimento alla Shoah, viene fatto riferimento a Grillo che fa una battuta. Allora questa non è una cosa. Secondo lei sono gli ebrei a essere intolleranti? Secondo me sì. Ecco il cretino. Torniamo tra un attimo. La Zanzara. Fuori dalla storia, Bozzo. Ma guarda, coglione, ma stai scherzando? Ormai sei fuori dalla storia, come giornalista, come tutto. Ma guarda, ormai sei non conti più niente. Un giornalista che può andare a fare gli scartini, non il giornalista. Puoi fare gli scartini, hai capito? Ti aggiorno, Bozzo, sul fatto che ormai di secessione non parla più nessuno. Devi aggiornarti, è finita quella panza. Non hai capito niente della vita. È finita quella panzana là. Perché sei assistito? Ma assistito come da chi? Tu sei un paio di scarsini. Beh, quanto vorrei di nuovo una battaglia Boso Parenzo, Boso candidato di nuovo, il vecchio Obelix, come dicevamo prima, al Parlamento europeo nelle liste della Lega Nord. C'è anche Buonanno. Allora ripetiamo ancora una volta, Buonanno secondo me è stato messo in lista, caro Parenzo, perché porta voti, non c'è niente da fare, con la sua grande visibilità. E per fare un dispetto a Borghezio. Vabbè, adesso non lo so, ma chi se ne frega per fare un dispetto a Borghezio? Non credo, guarda che tra i due non è che non ci sono dei ma buoni... Ma secondo te in Europa noi abbiamo bisogno di Boso? Secondo te... lascia perdere, adesso sto parlando di Buonanno, con un'altra cosa. Buonanno può stare tranquillamente al Parlamento europeo, tranquillamente. Qual è il problema? Comunque, una volta da noi disse... Una volta da noi disse, se un gay ci prova, calcio nei coglioni. Se un gay si avvicina a te e ci prova, tu che fai? Gli do un calcio nei coglioni. Ma dai, Ismaele, ma perché così? Ma perché scusa, ma permettimi, se uno viene a rompermi le palle... Se uno ti corteggia, gli dai un calcio nei coglioni. Sì. E poi quella storica, esiste la Padania perché c'è il Grana Padano. Ma il Grana Padano perché si chiama così? O perché esiste il Gazzettino Padano? Hai detto che non esiste la Padania e invece la Padania esiste. No, ma la Padania esiste. È un modo per dire che se c'è questo termine, questa terminologia, è perché la Padania esiste. Iva Zanicchi, un po' stretta nella sua candidatura, è un po' complicata stavolta, Parenzo, non è così semplice come l'altra volta quando subentrò, eccetera, un po'... lo so, povera Ivona. Un po' più complicata. Beh, l'ultima uscita che ha fatto scalpore della Zanicchi è quando ha detto che quello che porta i braccialetti è un mezz'uomo che sembra frocio, si riferiva, credo, a Renga. Scusa, voglio notare una cosa, tutti i braccialetti, tutti gli anelli, se li indossasse un uomo, un mezz'uomo, adesso la dico grossa. Dilla, vai. Posso dire, sarebbe un po' frosh. No, lui invece è macho, anche portando gli... è vero. Francesco, so che hai tante interviste da fare, ti libero volentieri da questo branco di iene. Poi sempre con Fratelli d'Italia abbiamo il mitologico Magdi Cristiano Allam, entrato con l'UDC al Parlamento Europeo nel 2011, poi passato in vari gruppi, eccetera, eccetera, il quale però una volta disse che non si sarebbe ricandidato, non si vergognava di andare poco al Parlamento Europeo e dunque di prendere lo stipendio, che gli serve per mangiare. Noi queste cose non ce le dimentichiamo perché abbiamo il nostro grande archivio. Non è un qualcosa di cui mi vergogno di essere tra i più assenteisti nel Parlamento europeo, è un'esperienza che sto facendo, non ho la minima intenzione di ricandidarmi. Io non mi riconosco in questa Europa, un'Europa che è un colosso di materialità senza anima, un'Europa che si vergogna delle proprie radici giudaico-cristiane. Ma rimane parlamentare europeo in ogni caso? Lo sono, è come dire, è il mestiere che mi permette di mangiare, quindi continuo a farlo sicuramente. Non mi ricandiderò e puntualmente è in lista con Fratelli d'Italia stavolta. Bah. Oh, c'è anche Paolo Guzzanti, Come no? Sentiamolo che imita Prodi. Avevo previsto tutto, tutto avviene esattamente nei termini che avevamo individuato, persino sconfortante. Fortuna che mi sto preparando, scaldando la sedia come Presidente della Repubblica. Però forse è meglio quella di Berlusconi su Putin, Certo, te Vladimir, che hai una vera democrazia efficace in questo paese, mentre da noi la gente si comporta in un modo politico per primi, contro la democrazia stessa che siamo noi, e sono contro di noi, dunque contro la democrazia stessa non sono venuti. Ricordiamoci che Guzzanti torna in lista dopo tanti anni, passato dall'accuse a Berlusconi della mignottocrazia, poi a un riavvicinamento verso il Cavaliere. Oh, a sinistra c'è anche il sindaco di Agrigento, Zambuto, credo nel collegio delle Isole, il quale Zambuto recentemente ha fatto una cosa, un appello ai cinesi: invadeteci. Cari turisti da tutto il mondo, cari amici cinesi, sono Marco Zambuto, agrigentino ad hoc e sindaco di questa meravigliosa città. Vi offriamo sole, mare, gastronomia, storia e divertimento, un mix unico al mondo. Vi aspettiamo numerosi, dalla Cina come dal resto del mondo. Amici cinesi, invadeteci, non vi deluderemo. Zai Tian, Zhangguo Painio, Hai Min Limei Le Do, Wo Men Jue Pu Gu Funi and Chuan. Ecco, io sfido beh, Zambuto, questo è geniale, però, scusa. Ma che secondo me non c'è manco un cinese che ha ascoltato questa roba, a parte ma che... Ma ha ragione, questo è un modo per promuovere il territorio. Ma quale promuovere il territorio? Venite a trovarci. Ma è una buffonata, inaudita, dai. Su, ma che... non sembra una stupidaggine. Ma quando mai? Molto meglio. Non c'è questo, un cinese che sentendo questa, a parte che i cinesi non viaggiano di solito, cioè, non è che cosa, viaggiano no, a... Ma sì, viaggiano con quelle cose organizzate, non è che vanno... Ma insomma, non è così. Ma non è che li attrai con queste cose, dai, su. Beh, guarda, molto meglio di quel sindaco di Jesolo della Lega, mi pare fosse Stefano Stefani all'epoca, poi diventato sottosegretario al governo, primo governo Berlusconi, che quando fu sindaco di Jesolo, a un certo punto disse: i tedeschi, l'economia di Jesolo vive molto dei tedeschi, non li vogliamo perché ruttano e mangiano würstel, disse. Ma a parte che non credo fosse Stefani, comunque. Non mi ricordo se era Stefani, appunto, non so se è Stefani, ma era uno della Lega che anziché dire... cari tedeschi, venite a Jesolo, venite qui, addirittura non li voleva. Quindi meglio questo di Agrigento, che dice ai cinesi: siamo qui a vostra disposizione, perché almeno promuove il territorio, no? Sai che promozione ha invaso le televisioni cinesi con questa roba il sindaco di Agrigento. Ma andiamo con Lores da Vicenza. Buonasera Lores. Ciao a tutti. Ciao, dimmi amica Lores, dimmi. Allora, apro parentesi, vorrei che questa mania di persecuzione di un popolo fosse finita, perché ormai hanno rotto le palle. Chiudo parentesi. Ma quale popolo? No, un popolo. Allora, posso andare avanti? Ma che vuol dire nei confronti di un popolo? Dimmi, che vuol dire? Sì, no, che questa mania di persecuzione dopo 70 anni basta, non se ne può più. siamo ancora perseguitati adesso noi. Io ma voi chi? Dai, Veneti, Veneti. Da chi ti senti perseguitata, Lores? Da chi ti senti sì. Vive gli indipendentisti, fuori indipendentisti, dentro il golpista che sta sul colle. Cioè dentro Napolitano, il golpista napolitano, fuori indipendentisti. Certo, dentro il golpista che sta sul colle, dentro, l'ho sentito alla radio perché non potevo, non ho la televisione, perciò non ho potuto vederlo, sì. Che lui se ne fotte altamente gli italiani, perché ha detto anche se vinceranno gli euroscettici, sì, non ci tornerà indietro. Lui non può permettersi di dire certe cose, lui non può decidere niente, lui deve stare zitto, ha parlato anche troppo, basta, via il golpista, in galera, deve andare in galera. Parenzo, che dici di Lores? No, io dico che il problema della Pasquetta è che le persone che hanno a casa debole di mente, durante le vacanze, come questo ponte della Pasquetta, si ritrova a dover gestire casi preoccupanti come questo. Quindi il mio appello è a Beatrice Lorenzin, perché comunque il Ministro della Salute si occupi di queste persone che sono bisognose di aiuto. Stai sulle palle a tutti, sei odioso. Sono preoccupato perché... Sei uno stronzo, non sei preoccupato, sei preoccupato di portare a casa la pagnotta, imbecille! Perché il Servizio Sanitario Nazionale... Stai zitto, imbecille, sanitario dici solo nazionale, cazzate! Non esprimi mai l'idea, sei sempre contro tutti, imbecille comunista di merda! Beh, calma, Lores, allora, io dico una cosa, tra l'altro, secondo me Lores non ha nemmeno detto una cosa folle, l'ha detta in maniera un po' pittoresca, però ha detto che Napolitano non può sostenere che è preoccupato per la eventuale vittoria degli euroscettici. Qui non ha detto niente di male Lores, sta contestando il Presidente della Repubblica, il quale si mostra preoccupato per la vittoria di una parte politica. Adesso devo dire oggettivamente, se uno dice no, i partiti euroscettici sono, come dire, sono fonte di preoccupazione, non è proprio una figura di garanzia, no? Parenzo, che dici? Ma guarda, le elezioni europee sono una partita, quelle italiane sono un'altra. Napolitano è stato anche deputato europeo. Ma che c'entra questo? Conosce quel mondo, che non possa esprimere come fa il presidente, come fa la presidentessa Merkel o come fa il presidente della Francia un giudizio sulla preoccupazione degli anti-europeisti, questo mi sembra una stupidaggine. Dopodiché il caso della Lores è diverso, perché il caso della Lores è un caso clinico, dici tu. No, ma è un caso di persona abbandonata durante le vacanze di Pasquetta. Lores, sei abbandonata? Lores, ti senti abbandonata? Io se mi sento abbandonata? Sì. Ma stai scherzando? Io sono piena di amici, ma non so cosa fare per distrigarmi. E quel cretino lì, che per esistere deve dire cazzate, le care il culo ai comunisti, altrimenti non esisterebbe. Ai comunisti. È piena di amici, ma in camice bianco, te lo dico io. Ma stai zitto, che non sai dire un cazzo, dici sempre le solite merdate, non sai dire niente, Parenzo, sei una nullità. I suoi amici sono i medici del Policlinico di Vicenza e poi ovviamente infermieri. Sta zitto, cretino di merda! Questi sono i suoi amici, questi qui, gli infermieri e tutta la struttura sanitaria. Non sa dire altro, un deficiente. Lores, ti abbandono. Ciao. Roberto da Cremona, poi abbiamo un ospite per la prima volta alla Zanzara dopo tanto tempo. Roberto da Cremona. Sì, io volevo dire una cosa, Berlusconi. È da una vita che è indagato, processato, l'uomo più indagato del mondo, io dico. A un certo punto hanno trovato che era colpevole. Cosa gli è andato? Mezza giornata alla settimana. Cioè io una volta ho dimenticato un borsetto su un ponteggio, mi hanno ficcato una multa a me, una multa a mio papà, una multa a mia mamma, una multa a mia sorella. Cioè hanno multato tutti, no? Vabbè, dopo uno dice, va bene. Allora Berlusconi era quello che doveva riformare la magistratura e aveva ragione, perché così non funziona. Vabbè, perché... allora? Allora bisogna riformarla. Dopo c'è un'altra cosa, che però quelli del PD non vogliono riformarla perché va bene così, sì, no? Dunque... Però così com'è non funziona e quelli del PD vogliono Berlusconi in galera, ma se non riforma la giustizia, che Berlusconi vuole fare, Berlusconi non va in galera. Quindi siamo sempre lì. Sai che non ho capito quello che vuole dire lei? Cioè, veramente non ho capito. Vabbè, se non hai capito si deve svegliare un po', insomma. No, ma magari si deve svegliare lei, si deve spiegare meglio, Non me moleste moschito. caro Parenzo, io devo dire la verità, non me l'aspettavo, non me l'aspettavo, perché mi aveva sempre detto no, ma alla fine non mi voglio candidare, faccio la mia battaglia contro l'euro che porto avanti da tanti anni in solitaria, all'inizio in solitaria, adesso insomma, come dire, il fronte anti-euro è un po' più, è un po' più folto, e invece poi alla fine si è candidato, ci spiegherà perché adesso Claudio Borghi. Buonasera. Buonasera. Ciao Claudio, come stai? Ciao, me la cavo. Allora, Parenzo, tu te l'aspettavi la candidatura di Claudio Borghi Aquilini, professore universitario? Guarda, Borghi che è candidato con la Lega numero 2, insieme a Salvini. Borghi è una bella candidatura, perché è una brava persona. Io fossi lui mi vergognerei di essere in un posto in cui però c'è anche come compagno di avventura il potenziale Boso. Dopodiché lui invece è una brava persona, perché è uno studioso e uno che quelle cose lì le ha studiate, le crede, le ha vissute e le pone in modo scientifico e intelligente. Devo preoccuparmi per i complimenti di Parenzo. Beh, ha detto anche che ti dovresti vergognare, Claudio, a stare nella linea. Ah, vabbè, scusa. Cioè. Guarda, io ho come compagno di strada Cruciani, tu hai come compagno di strada Bosso. Abbiamo due presentabili vicino e li vogliamo bene, perché io voglio bene ad esempio all'impresentabile Cruciani. Tu vuoi bene a Boso? Questa è la domanda. Ma adesso che c'entra Boso? Scusa, spiega. No, vuoi bene a Boso? Ma non lo conosco di persona. Vabbè, sai che il mitico Obelix, il quale ne ha dette di tutti i colori, è candidato, credo tra l'altro nel tuo stesso collegio, se non sbaglio, forse no, nel nord-est. No, non credo, è nel nord-est. Nel nord-est, sì. Vabbè, ma insomma, certe candidature ti impressionano essere insieme nella stessa lista, anche se in posizioni diverse, che ne so, con Borghezio, con Bos, eccetera. Ti provoca, secondo Parenzo ti dovresti vergognare, secondo me no, evidentemente non ti vergogni. No, ma innanzitutto no, non mi vergogno affatto, anche perché per una volta che ci sono le preferenze, direi che tutti questi problemi decadono abbastanza. Poi in generale, insomma, io sono sempre stato abbastanza contrario a essere accomunato a chiunque, cioè se anche mio padre, che è una bravissima persona, per carità, facesse qualcosa di male, io sono io, quindi vorrei essere giudicato per cosa faccio io, non per chi mi è vicino, chi mi è seduto di fianco, chi è in lista. No, ma questo me, è vero, però ci sono delle persone che sono in lista con te che magari hanno detto delle cose per cui uno dice appartiene alla stessa comunità politica, anche se tu ti candidi da indipendente nelle liste della Lega Nord, però comunque ne so, uno dice io sono apertamente razzista, non credo che tu sia razzista. No? No, penso proprio di no. Parenzo, allora, Borghi mi fa venire in mente che cosa? Mi fa venire in mente quello che è stato per la Lega, come possiamo dire, Miglio, Parenzo, che ne so, il nuovo Miglio della Lega, oppure che ne so, quello che Becchi per un certo periodo è stato per Grillo. Beh, no, cioè, ti senti Becchi, un po', Claudio, una sorta di ideologo della Lega, sì o no? Ma troppo onore, perché guarda, io figurati, quando sono entrato da studente per la prima volta in Cattolica, proprio il primo giorno, varcando il portone, il primo persona nota che incontrai, che stava uscendo, era Miglio, persona di una cultura infinita, di cui sicuramente superiore alla mia, quindi no, non mi paragono a Miglio, lui è molto più istruito, molto più profondo di me. Io in realtà sto dicendo delle cose piuttosto banali, cioè c'è una differenza fra uno che elabora una teoria, no? E chi invece si limita a dire una cosa che è vera. Tra parentesi, prima sentivo la musichetta del circo, no? Sì, per descrivere i candidati. Alcuni. Ecco, quella lì effettivamente mi descrive abbastanza, no? Perché? Perché quando ho iniziato a parlare o a denunciare le questioni dell'euro, io venivo invitato in trasmissione come il fenomeno da circo. C'era dunque, adesso intervistiamo la donna baffuta, il pazzo, e Borghi, diciamo, e Borghi che vuole uscire dall'euro, no? Cioè cose di questo tipo. Poi dopo, man mano che le cose che dicevo che sarebbero successe hanno cominciato a succedere davvero, vedete anche voi che è cambiata un pochettino l'aria, no? E quindi allora diciamo che questi argomenti stanno venendo trattati sempre con... No, questo è vero, Parenzo. Una volta Borghi veniva preso, vabbè, vediamo il malato di mente che parla di uscire dall'euro, no? Prendiamo il pazzo scatenato. Devo dire che poi alla fine, e non può essere solamente ricerca di un mercato politico, Parenzo, ci deve essere qualcosa, al di là del fatto che uno dice, beh, sono contro l'uscita dell'euro. Ma rimane una suggestione straordinaria che ricorda la propaganda che si faceva negli anni 30, nello stesso stile di quella propaganda lì, per cui si dipinge l'Europa come fosse il male assoluto l'Europa delle lobby. Delle a parte banche. Che adesso non si sente il tuo telefono come al solito, però tu stai dicendo una cosa gravissima, cioè stai dicendo che sostanzialmente la propaganda nazista che si faceva negli anni 30 è uguale alla propaganda non euro di adesso, ma ti rendi conto o no? Cioè Claudio, gli vuoi dire qualcosa o no su questa roba qua? Ma guarda, sai, è proprio si ritorna anche a quello che si diceva prima di Napolitano, no? Vale a dire... l'euro come l'euro, attenzione, non l'Europa, perché a me l'Europa può anche andar bene, nel senso che a me no, comunità però. Di stati, ma l'euro è lo strumento che voglio abbattere, poi dopo uno decide se vuol stare in Europa intesa come associazione di stati o no. L'euro invece è un'altra cosa. Invece questo euro, quindi l'euroscetticismo, perché è gente che non vuole l'euro, non che non vuole l'Europa per la maggior parte dei casi, è diventato una categoria morale, no? Vale a dire, Napolitano si scandalizza, come dire, ecco, se c'è uno che invece il pedofilo, il filo assassino, così di questo tipo, o che dice che la guerra va bene, così di questo tipo, è quello che invece non vuole l'euro. Ma stiamo scherzando, cioè l'euro è una scelta politica. Io posso tranquillamente dire che Parenzo dice che siete come i propagandisti nazisti degli anni 30 che volevano spacciare l'Europa. Parenzo vuol provocare, per carità, lo sappiamo benissimo, però in realtà rendiamoci conto, è una scelta di usare una moneta unica oppure no, non è che stiamo parlando di categorie morali, del bene e il male, i cattivi contro i buoni o cose di questo tipo, è una scelta economica politica, che ha prodotto dei disastri incredibili, che ha prodotto una marea di sofferenza, suicidi e cose di questo tipo, e quindi dal mio punto di vista io vedo che chiunque, non ignorante, ma tu ti saresti candidato con chiunque oppure no? Oppure la Lega è stata una scelta alla fine anche per... che hai votato nel passato? Adesso questo qua lo possiamo dire in maniera trasparente, non ci ingannare su questo, Claudio. No, ma assolutamente, anche perché no, io ho votato spesso Forza Italia, alle ultime elezioni ho tolto il voto a Forza Italia cioè al PDL, sì. Perché al PDL, sì, scusate, perché avevano votato in Parlamento Fiscal Compact. Sì. Cioè hai sempre votato per Berlusconi, in sostanza, fino all'ultimo... Io ho votato metà Lega, metà Berlusconi nel passato, e poi dopo, nell'ultima tornata, tutto pubblico, perché io dico sempre chi è. Sì, chi anch'io. Alle ultime hai votato? Ho votato Lega perché c'era Salvini. Vabbè, adesso già alle ultime elezioni, un anno fa, hai votato Lega, dai, su. Sì, grazie. È vero, andate a cercare su internet. Andate a cercare su Twitter, lo potete trovare senza problemi, e non solo, comunque l'avevo fatto al di là della mia simpatia personale per Salvini, che poi dopo, una volta conosciuto personalmente, è stata confermata, l'avevo fatto perché era stato l'unico partito che non aveva votato Fiscal Compact, e quindi per me la decisione diventava assolutamente obbligata. Parenzo, ci credi? No, ci credo, sì, ci credo, perché conosco Borghi da tanti anni e quindi sono assolutamente in buona fede. La cosa non è in buona fede la propaganda che lui fa per... Ma perché non è in buona fede? Ma se uno vuole uscire dall'euro e pensa che si possa fare, io non lo so, e pensa che si possa fare e che non sia un dramma così, ma perché la consideri una propaganda pericolosa? Io questo voglio capire. A parte che non si può fare, lui lo sa perfettamente che non si può fare. Evidentemente no, non lo sa, perché quindi fra 3.000 anni noi rimarremo con l'euro, no? Cioè voi pensate che quando arriveranno gli spaziali ad invaderci noi avremo l'euro. No, il referendum sono d'accordo anch'io che il referendum non si può fare. Senti, ma tu, secondo te gli indipendenti... Quello è Grillo che dice che bisogna fare il referendum, non noi. Noi diciamo che bisogna uscire per decreto. Senti, Claudio, ma secondo te gli indipendentisti sono dei patrioti? No. Cioè, sono degli eroi gli indipendentisti, quelli che sono in galera? No, secondo me però rischiano di diventarlo nel momento stesso in cui vengono carcerati. Perché la libertà di opinione, se io... penso, anche qui, se io penso che non voglio l'euro, devo essere libero di poterlo fare. Se io penso che starebbe meglio il Veneto come patria indipendente, anche lì sarei libero di poterlo fare. Ma tu sei per l'indipendenza del Veneto? Ma guarda, io sono per il federalismo, per la democrazia genericamente. Se un popolo, se una parte di persone, se uno Stato è libero, decide di fare qualcosa, deve essere libero di poterlo fare. Non vedo perché c'è così il terrore della democrazia. Napolitano, quello che avete citato prima, mi sembra esattamente l'archetipo di chi vuole essere contrario alla democrazia. Cioè, contrario alla democrazia, secondo te? Ma scusate, c'è tre governi che non sono stati eletti, lui che è i senatori a vita, lui che vuole ispirare fare una riforma del Senato di non eletti dove lui ne decide 21, ma scusate, cioè adesso ma stiamo decidendo più qualcosa, e l'Europa va benissimo perché l'Europa è contraria alla democrazia. Cioè secondo noi, te Napolitano è l'emblema dell'antidemocrazia in questo momento? Sì, una specie di monarca, una specie di questi tipo della sinistra illuminata che sono convinti che la gente sia cretina, e quindi è assolutamente, è perfettamente inutile fargli votare, farli eleggere o cose di questo tipo, perché tanto eleggono quelli sbagliati, per cui devono decidere loro. Cosa che mi irrita profondamente, se devo essere sincero. Allora facciamo, perché... Parenzo, un test di leghismo a Borghi. Voglio dire solo altra cosa. Io sono diventato, e lo sarò in questa campagna elettorale, un fan, un ultras dell'Europa, un ultras della Merkel. Fai benissimo, per carità. Ma io, ma a me va benissimo, Cioè, ma chi dice, senso, chi dice il contrario? Se uno vuole essere, se uno sembra che sta andando tutto bene, che tutto è una figata, così come sono messe le cose, che procediamo avanti così, che andiamo bene invece di schiantarci contro un muro, è legittimissimo. Io voglio chiedere a Borghi solo una cosa: Juncker, Verhofstadt, lì chi sono quei tutti i tedeschi? Ma Parenzo vorrebbe più Juncker, più Merkel in Italia, vorrebbe più Commissione Europea, più europei. Parenzo, dimmi la verità: sicuramente i nostri interessi. Sì. Parenzo, se tu ti faresti governare dai tedeschi? Io sono anche a Francoforte la settimana scorsa e assolutamente vorrei quel modello lì, sicuro che funziona. Loro sono riusciti a riunificare Berlino Est con Berlino Ovest in pochissimi anni, a farla diventare una capitale europea. Noi abbiamo ancora più Germania in Italia, dillo, più Germania in Italia. Ma assolutamente sì. Allora, test di leghismo, test di leghismo. Un attimo voglio solo chiedere a Borghi solo una cosa. Sì. Qual è il paese d'Europa che spende di più e meglio i fondi europei? E poi ti dico che classe politica di merda che abbiamo avuto fino ad oggi in Europa. Qual è il paese d'Europa che spende meglio i fondi europei, professor? Sarà la Germania, sarà. È l'Estonia. È l'Estonia. Allora, ma chi se ne frega? Perché io ho intervistato i deputati dell'Estonia. Un singolo assegno che lo utilizzeranno. No, perché io ho intervistato i deputati dell'Estonia. Ma c'è notare che in Estonia non c'hanno mica l'euro. I deputati dell'Estonia. Vabbè, adesso andiamo sui deputati dell'Estonia. Chi se ne frega? No, voglio fare un test di leghismo. Fare un test di leghismo. Non me ne importa niente. Voglio fare un test di leghismo a Claudio Borghi. La prima cosa, l'indipendenza della Padania, sì o no? No. No. L'immigrazione clandestina va fermata a tutti i costi, anche con la forza? Sì. Sì. Lo Ius Soli, sei d'accordo? Assolutamente no, immagino. Lo Ius Soli nel senso... Cioè chi nasce diventa italiano? No, figurati. Prostituzione legalizzata? Prostituzione legalizzata, sì, assolutamente. Attenzione però una cosa, per essere precisa, l'indipendenza della Padania... perché per me va meglio il federalismo. Sì, no, ma l'hai già detto, quindi... ma va la risposta secca. Immigrazione clandestina va mantenuto come reato, cioè va rimesso il reato immigrazione clandestina, sì o no? Sì. La legge Fornero va cancellata. La legge Fornero va cancellata? La legge Fornero va cancellata, è stata fatta malissimo. Io sono per una parte della legge Fornero, vale a dire per il sistema pensionistico calcolato con retributivo. Ho capito, ma sarai per l'aumento dell'età pensionabile o no? Ma mi sembra già sufficientemente alta, se devo essere sincero. Va bene, ha mezzo superato il test di leghismo. Ciao Claudio, a presto. Ciao, grazie a voi, ciao. La zanzara. È la zanzara capricciosa, la zanzara velenosa, la zanzara dispettosa, fa zazza. È la zanzara capricciosa, la zanzara velenosa, la zanzara dispettosa. Beh, amici miei, a grande richiesta, David, a grande richiesta... Riascoltiamo uno scontro che è diventato cult. Tra chi? Tra il mitico avvocato Carlo Taormina, che tra l'altro è alle prese oggi con un'altra causa pazzesca, con un gruppo homosex che vuole portarlo in tribunale perché una volta ha detto qui da noi alla Zanzara che non vuole gay nel suo studio di avvocati e vuole fare una battaglia giudiziaria pazzesca su questa cosa qua, e addirittura qualcuno l'ha denunciato, lo vuole denunciare, non lo so. L'avvocato Taormina, che pensa di parlare con Luciano Moggi, magistralmente interpretato dal nostro Andro Mercù, e si scatena il putiferio. Sentite. Di un aeroplano che si avvicina a me piano. Luciano? Chi parla?

per le cose che succedevano allora e che casualmente adesso che lei non c'è succedono ugualmente. Quindi questa è la mia questo, posizione. Ecco, lo vede. Allora, non c'è congiura, non ci sono cupole, non c'è cacciopoli che è una barzelletta, non ci sono arbitri corrotti. Dormire, però la smetta. Sì, gli arbitri corrotti non ci stanno, gli arbitri che sbagliano non ci stanno. Io non ho mai rubato partite. Le inchieste che hanno fatto i magistrati e che hanno portato anche lei sul banco degli imputati senza esiti favorevoli dal punto di vista accusatorio, perché è andato avanti con prescrizioni e quant'altro, voglio dire, non conta più niente, dobbiamo far finta che non esista niente. No, mi dispiace. Allora, adesso la smettiamo. Comunque lei Taormina la smetta di scrivere quelle cose in io internet. Faccio quello che mi pare. Oggi io faccio quello che mi pare, non prendo consigli da lei. Sa qual è la differenza? Le conseguenze di quello che faccio, ma faccio come voglio. Lei non si può permettere, non ha nessuna autorità morale per dire a me quello che devo fare. Ha capito? Se lo metta bene in testa. Sai cosa le dico? Io sono Moggi e lei è Taormina. Esatto, proprio così, finalmente l'ha capito. La differenza, capisci? Appunto. Esatto, quello che dico anch'io. Basta, mi sono stufato. Questa è spazzatura. Buonasera. Spazzatura pure per lei, grazie, arrivederci. Lo sai che alla fine in realtà non se l'è presa così tanto. Mi chiamò il giorno dopo l'avvocato dicendomi ma davvero quello era Moggi? Ma davvero era Luciano Moggi? Io ho fatto sì, certo. Allora guarda, telefonagli e digli che in realtà non volevo attaccarlo così tanto. Però lui mi ha attaccato, io non mi faccio mettere i piedi in testa da nessuno. Ma ero amico io di Moggi. Tutti i giornali uscirono Moggi, senza che noi non abbiamo fatto niente, non è che abbiamo lanciato come vero, no? Tutti i giornali sono usciti con scontro di Taormina con Moggi. Non era vero. Ormai è tutto degradato ormai. A proposito di imitazioni, da più parti mi dicono che la migliore imitazione, il migliore scherzo realizzato con le imitazioni non è stato quello di Vendola, non è stato quello un altro Vendola con un grillino, non è stato quello del finto Chedini con Don Mazzi, Barca, no. Lo scherzo meglio riuscito è stato quello del finto Papa con Pier Giorgio Odifreddi. Perché da lì è venuta fuori la persona Pier Giorgio Odifreddi. Pronto? Professor sì? Pier Giorgio Odifreddi? Sì? Sono Francesco, buonasera. Oh, ma non mi dica veramente? Francesco, il Santo Padre. Il Santo Padre, mi alzo in piedi perché almeno questo glielo voglio dare come rispetto. Spero. Fa molto piacere sentirla. Come mai mi chiama? Spero di non disturbare il suo lavoro. No, sono venuto a Pordenone a fare una conferenza su Lucrezio. Anzi, lei lo sa che noi ci incontriamo? Gliel'hanno detto? E questo non mi hanno riferito. Perché io vengo il 25 di ottobre, quindi la prossima settimana, alla messa a Santa Marta, perché una mia cugina che è molto religiosa ha perso il marito per una leucemia, eccetera. Mi dispiace molto, è molto doloroso. Piacere, infatti, lo so, mi ha detto che le avrebbe fatto piacere venire a messa da lei, no? Io ho chiesto al Cardinal Ravasi, che conosco, e lui gentilmente mi ha detto se volevo anch'io unirmi, diciamo così, e quindi vengo volentieri alla messa di Santa Marta la mattina. Questo mi fa molto piacere. Io Mi dica, sono molto contento di sentirla. Io ho letto le cose che lei ha scritto sull'Olocausto, io la fermo subito perché in realtà è un completo fraintendimento. E infatti oggi ho chiarito sul mio blog, io non ho assolutamente nessuna intenzione di negare né l'olocausto né le camere a gas, eccetera. Invece, no, ho detto semplicemente qualche cosa sulla verità. Dicevo che la verità storica è diversa dalla verità matematica, ma purtroppo queste cose sul blog sono troppo sofisticate per poterle capire. Quindi è stato un errore voler parlare di queste cose, no, in un ambiente che non è adatto. Quindi assolutamente, però mi fa piacere che si sia preoccupato della cosa. Perché lei si rende conto che una pagina molto dolorosa della storia del... che ha provocato. No, ma infatti io non sono assolutamente di questa idea, mi fa piacere, anzi, se questa è stata l'occasione della sua telefonata, no, ma non ho assolutamente, in altre parole, no, da difendermi rispetto a questa cosa, perché non le credo, quindi non credo a lei, no, ma non credo a queste cose, quindi... Mi piacerebbe in ogni caso incontrarla privatamente, le andrebbe di parlare con me di questa cosa. Molto volentieri. Vuole che dopo la messa del 25 mi fermi un pochettino? E guardi, non so se lei, beh, naturalmente il suo libretto di appuntamenti sarà molto... Potrebbe essere una buona occasione. La chiamerà però la segreteria. Sì, volentieri. Io tra l'altro mi permetto in questa occasione di chiederle una cosa, perché lei sa che il suo predecessore, Benedetto XVI, mi ha scritto una lunga lettera, non so se lei l'ha vista. Non ho letto questa sua lettera. Sì, perché io avevo scritto qualche anno fa, 2 anni fa, un libro che si chiama Caro Papa, ti scrivo, no? E l'avevo indirizzato a Benedetto XVI ed è un lungo commento sulla introduzione al cristianesimo, no? Di Benedetto. Mi farebbe molto piacere leggere questo. Io lo porto, anzi, se lei poi sa, l'unico che può fare una prefazione al libro con un papa no, è un altro papa, naturalmente. Noi lo pubblichiamo ai primi di novembre. Se vuole, sa che cosa posso fare? Se mi chiama la sua segreteria, le faccio mandare le bozze, lei magari lo guarda prima di incontrarci, così possiamo parlare di queste cose. Mi farà molto piacere. La chiamerà la segreteria di Stato. Perfetto. Per così fissare anche la lettera che mi ha scritto Benedetto. L'appuntamento. Una lunga lettera, quindi benissimo, sono molto contento. Sono felice di questo. Allora anzitutto la vedo di sicuro alla messa, io starò in silenzio perché non essendo un credente però sto a sentire quello che dice, e poi se appunto riesce a trovare il tempo in quel momento io mi fermo dopo la messa e facciamo una chiacchierata anche noi. Farà molto piacere, che il Signore la benedica e la Madonna la custodisca. La ringrazio. Buonasera. Sono credente, ma l'accetto molto volentieri. Allora. Buonasera. La saluto molto e aspetto di vederlo la prossima settimana. Buon riposo. Arrivederci. La Zanzara. Rosa, rosa, rosa, se va bene rosa, ma poi invece sa bruciare proprio addosso a me. No. Moschito. Giorno di Pasquetta. La Zanzara. Pure il giorno di Pasquetta, Parezzo, si avvironda, ma tu ti rendi conto? Dobbiamo rovinare questo santo giorno in cui... Ah no, tra l'altro si dice a Natale coi tuoi, Pasqua con chi cavolo vuoi, per cui... Sì, e invece sei costretto a fare Pasqua, Pasquetta con me, capito? Qui alla radio. E dobbiamo ammorbare con le nostre stronzate il popolo della radio e sentiamo subito Massimo da Bologna. Massimo, vai. Pronto? Dimmi. Senta, niente, volevo solo dire che secondo me è stato un comportamento disdicevole, perché comunque non si può fare una cosa del genere, anche se io sono a favorissimo delle forze dell'ordine, però non si può fare un... Va bene, non mi pare una cosa particolarmente originale, caro Massimo, mi sembrava che lei fosse partito e non c'è... Siccome lei li difende sempre, cioè lei difende sempre... Io non difendo nessuno, se quello ha commesso una stupidaggine... pagherà. Io dico semplicemente che parlare di un cretino mentre i cretini sono altri, parlare di aggressione della polizia nei confronti dei manifestanti, parlare di massacro, quello ha fatto una calpestatina e se l'ha fatta apposta è un imbecille, ma no, io credo che non volesse distruggere le costole a nessuno, tant'è che quella ragazza per fortuna è viva e vegeta. Prendersela con quel poliziotto per quella stupidaggine che ha fatto, perché ha commesso evidentemente una stupidaggine se voleva andare, e comunque una calpestatina, sia una stronzata, perché durante una colluttazione, durante un'aggressione nei confronti delle forze dell'ordine, può succedere anche questo, che uno per un istante perda la testa, perché quelli davanti, che avevano davanti, sono dei criminali con le bombe carta in mano, con i bastoni e con i caschi, chiaro? No, non è chiaro. Allora, Roberto da Milano, se non è chiaro. Non è chiaro manco per niente. Benissimo, Roberto da Milano. Non è chiaro. Per te non è chiaro, per me sì. Roberto da Milano. Pronto. Vai. Ciao, Cruciani. Ciao, dimmi. Ascolta, vedi un po' se è reato, se comincia a diventare reato in questo paese dire che lì ci sono dei criminali e là dall'altra parte ci sono dei poliziotti che respingono i criminali. No, che i poliziotti poi possono commettere delle azioni disdicevoli, possono commettere ogni tanto degli errori, questo non c'è dubbio. Ma lì c'erano dei criminali e non è successo nulla di particolare, qualche manganellata di più, sempre poche, amico mio, poche. Vabbè, sì, perché le forze dell'ordine Italia sono molto limitate in questo. Roberto, dai. Ehi, ascolta. Allora, intanto mi sembrate i due fratelli di Rese della radio, siete bellissimi col vostro gioco delle parti. Ma non è un gioco, purtroppo non è un gioco delle parti, è così, cioè la realtà. Allora? No, tra te e Parenzo. Vai, la cosa che volevo dire, la volevo dire a Parenzo, a me hanno sempre insegnato che ad ogni azione, non voglio far commenti, esiste una reazione. Sì. Quindi io vorrei vedere il signor Parenzo, se uno gli dovesse dare degli schiaffi in faccia, a parte il fatto che ha molto di quello che chiama la mamma, però voglio dire, non penso che stia lì a prendere. Sì, però non c'entra niente, per Parenzo è un privato cittadino, dall'altra parte uno dice ci sono le forze dell'ordine che sono i custodi della legge, dunque devono essere più rispettosi della legge rispetto agli altri. Parenzo risponderebbe più o meno così, giusto David? Ma no, ma non solo, ma è un paragone talmente idiota, non c'entra il problema, è idiota purtroppo, che non c'entra il problema. Da una parte c'è lo Stato, rappresentato dai poliziotti. Lo Stato che è in divisa, e sì, per cui io ho il grandissimo rispetto, quando lo Stato commette un abuso... Sì, ma non è successo, ma non c'è stato nessun abuso, dai. Io non so perché, ma voglio fidarmi di più del capo della polizia che non di un conduttore radiofonico. Ma che c'entra quello che pare... Che paragone ridicolo! Ma qui vogliamo riprendere che cosa? Il favoloso concorso, il favoloso reality, il contest. Troviamo un fidanzato a Lara Comi. Sicuramente io la mia amica Lara, a parte che l'ho invitato in Abruzzo perché ci sono tanti bei giovanotti che lo amano, lo vorrebbero, e sicuramente tra questi bei giovanotti abruzzesi sicuramente troverà l'anima gemella. Lo ha detto, Razzi. Lo trovano. Forse quello è il problema. Allora, abbiamo due nuovi, perché siamo a rush finale ormai, due nuovi aspiranti fidanzati. Roberto, 35 anni, che lavora in banca, banchiere, via. Ciao Lara, mi chiamo Roberto, ho 36 anni, lavoro in banca e mi piacerebbe poterti conoscere meglio, visto che già ci sentiamo virtualmente in Facebook, ma la virtualità esclude molto, diciamo così, quella che è la concretezza nei rapporti. Quindi, mi piacerebbe portarti ad Antigua per conoscerci un po' meglio, almeno una settimana. Grazie. Cioè, dalla banca ad Antigua, da Facebook ad Antigua direttamente, amico mio. Calma. Stefano è uno chef. Mi chiamo Stefano e ho 48 anni e faccio lo chef. Accidenti, Comi, sei uno schianto, niente da dire. Molla la latitanza e fidanziamoci. In casa, tuo, mio e lo stesso. E facciamo la doccia insieme per conoscerci. Però al buio, perché se guardi i tuoi occhi mi si chiude la vena e poi svengo. Non trovi sia un'idea fantastica? Per me sì. Comi, non avrai mica solo la vasca. Ma prendi, no. Ti passo a prendere in Vespa, dimmi solo quando. A presto, baci ovunque. Questo Parenzo si è leggermente allargato, questo qua. Ma io non capisco perché le persone si devono umiliare in questo modo. Allora, primo baci ovunque, secondo la doccia insieme, senza luce. Vabbè, però ha ascoltato tutto questa volta, per la prima volta partecipe di questa nostra follia, la protagonista assoluta, la principessa cui tanti ambiscono. Lara, dove sei? Ciao, ciao a tutti, come state? Bene, bene, allora, cara Lara, che vogliamo dire brevissimamente? Diciamo una cosa molto breve. Assolutamente, io intanto ringrazio tutti coloro che hanno telefonato, anche perché alcuni mi hanno veramente strappato un sorriso, veramente simpatici, anzi li avete anche bastonati alcuni. C'è la doccia insieme, dai su, la doccia insieme, baci ovunque, vabbè dai su. È stato molto molto simpatico. Allora? Però dopo questa sorpresa che tu mi hai fatto, adesso te la procuro io una bella sorpresa. Cioè, che vuoi fare? Questo è impazzito. Ragazzo mio, adesso ti tocca. Cioè, che vuoi fare? Adesso parte la ricerca, la fidanzata a Cruciani. Ma chi la fa sta ricerca? Ma la faccio io, naturalmente. E sei impazzita sul serio, mio Cruciani. Ma mi metti nei guai così, mi metti nei guai. Ma che ti metto nei guai? È ora che tu ti innamori, è ora che tu ti fidanzi, caro Cruciani. Vabbè, quindi, allora la cosa è che Lara Comi inizierà una ricerca, non so come, poi vedrete. Sì, parte su Facebook, parte su Twitter, una campagna non elettorale, ma in questo caso di reclutamento di fidanzate per Cruciani. Vabbè, invece di tutti questi curricula che ci sono arrivati, che facciamo? Naturalmente li analizzeremo insieme. Tu analizzerai i possibili miei fidanzati, io analizzerò le e poi? Tue possibili fidanzate. E poi? Selezioniamo? E poi guarda cosa ti propongo, vediamo se lo accetti. Al termine, i primi di giugno, quindi al termine di maggio, faremo una bella cena 4 con i rispettivi vincitori. Cosa ne dici? Mi tocca accettare, va. Per il bene della zanzara e della radio, mi tocca accettare. Ciao Lara, a presto. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ragazzi, ciao. La zanzara. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte, perché affonda il becco su di me. Ai, ai, mi ha beccato, ai, ai, mi ha beccato. E ancora in casa, Simo. Ma peggio è. Pure lo spray a di zanzara mi son messo il piede, ma lei gira sempre intorno a me. E balli su twist, e balli su twist, la zanzara twist. Una volta polpaccio e poi... Siamo qui, Giulio da Verona. Giulio. Luciani, ciao. Io l'altra sera ascoltavo le vostre, così... le vostre considerazioni, tue di Parenza, degli ospiti, sulle manifestazioni di Roma, sull'atteggiamento dei poliziotti rispetto ai manifestanti. Sì. E, francamente, Parenza mi ha fatto girare talmente le balle, ho tentato di prendere la linea, ma non ci sono riuscito. Non solo a lei, non solo a lei, le posso assicurare. Le posso assicurare. Voglio dire, tra l'altro, sono uscite in questi giorni altre foto su quel bravo giovinotto che abbiamo intervistato. Bravo. Che pare che invece maneggiasse qualche arma impropria contro i carabinieri. Voglio dire a Parenzo una cosa sola: va bene fare il fenomeno in tante situazioni, eccetera. No, però va bene anche fare quello attento ai particolari, ai dettagli. Il poliziotto che dà la manganellata in più, il poliziotto che fa la pestatina, la calpestata, chiamatela come volete. Va bene tutto. Fare ordine pubblico, ragazzi, non è una cazzata. Io ho fatto un anno il carabiniere. Quando ancora c'era il carabiniere ausiliario, facevo ordine pubblico col mio battaglione e ho fatto degli ordini pubblici in partite, con le partite di calcio. Ci sono i soliti cretini, assimilati un po' forse a quelli di Roma. Ti assicuro che agire in un contesto del genere non è per niente facile, anche dal punto di vista emotivo, per quanto tu sia preparato. Vorrei vedere Parenzo vestito da questurino sculettare in mezzo ai poliziotti e fare il suo lavoro lì. Guarda, vabbè, quello non fa il poliziotto, non è che è obbligatorio fare il poliziotto, però scusi Giulio, no, un altro voglio discorso. voglio solo dire stiamo attenti, fare ordine pubblico, ragazzi, non bisogna criticare chi ci difende e paradossalmente passare sopra quei deficienti. Scusa, io non critico chi difende, non critico i poliziotti in divisa. Ho detto più volte, mio nonno è stato questore di Cremona. Vabbè, quello che c'entra. No, io sono. Ci sono fior di terroristi che sono stati che erano parenti di carabinieri. No, ma per dire, dire. Stai dando del terrorista. Non ti sto dando del terrorista, ti sto dicendo che non è che se uno ha dei parenti. Mi stai dando del terrorista. Ma pure la ragazza lì, come si chiama? Quella ragazza che è stata calpestata da quel poliziotto. No, quella ragazza che stava con quel poliziotto è figlia di un finanziere, di che stiamo parlando? Allora, per il buon nome della polizia, è importante, che le mele marce vengano messe da parte. Allora, per il buon nome uno che polizia, dà una calpestata come quella non è una mela marcia e non è un cretino, può avere commesso un errore ma non è un cretino. Il prefetto di Roma, il signor Pecoraro, il prefetto di Roma ha detto che dare del cretino a quel poliziotto è sbagliato. L'ho letto. Non è che l'ha detto. perché il prefetto ha difeso assieme al questore la gestione dell'ordine pubblico in quella triste giornata. È evidente che siccome lui deve difendere quello che è avvenuto ed è uno dei responsabili di quella situazione assieme al questore, si permette addirittura di bacchettare il capo della polizia. Per fortuna però nei paesi civili e democratici la polizia fa delle inchieste interne, perché non siamo in Cile e quindi aspettiamo. Ma questo nessuno dice che non bisogna fare inchieste interne. Come tu da settimane continui a... No, da settimane usare... dico che non è successo niente di grave, ci sarà stata qualche manganellata in più, sarà stata quell'episodio lì, ma cercare di rappresentare quella giornata attraverso dei fotogrammi e le immagini di servizio pubblico è un errore. I delinquenti in quella giornata. Tu stai bene nella Russia di Putin, guarda. Tu stai bene. I delinquenti là, in quella giornata. Vai a farti dare le calpestatine dalla Russia. Dalla Russia di Giulio, Putin. Risponde lei per favore. Vai là. I violenti erano solo là. Da una parte quella giornata lì. I violenti erano solo da una parte. Sia chiaro, solo da una parte. Bravo. Bravo. Punto e basta, solo da una parte. E avevano il casco per non farsi riconoscere, quei vigliacchi, capito? E invece vogliono che i poliziotti abbiano il numero, capito? Quelli stanno... Ma dai, ma fanno ridere i poliziotti. In America c'hanno il taser, ti prendi una bella scarica elettrica, ti assicuro che ti dà una bella calmata. In tanti paesi hanno ancora i camion con gli idranti, che noi abbiamo messo invece. Noi no, li abbiamo messi nei ricoveri e non li tiriamo fuori. I poliziotti devono fare le carezze tra gente. No, ma devo dire la verità... Devo dire un'altra cosa a Parenzo. Lo sai dove vorrei che si facessero le manifestazioni? Non lo dico io, lo dice, credo, uno che è stato anche candidato per il Movimento 5 Stelle a sindaco di Roma, De Vito, come diavolo si chiama, il quale dice le manifestazioni si dovrebbero svolgere non al centro con i monumenti, le cose storiche, eccetera, dovrebbero svolgersi a Tor Vergata. Le manifestazioni. Perché stupidaggine? Le manifestazioni perché si dovrebbero... Allora, hai detto due stupidaggini in 30 secondi. Sì, la prima. Belle le manifestazioni vicine ai monumenti con la gente che fa le scritte. Ah, bellissime, certo, bellissime. Perché la città è di tutti, non è soltanto... Manifestazioni soltanto a Tor Vergata si fanno. Quindi, c'è il deserto, a Tor Vergata. Vediamo se fanno gli incidenti, poi che non se li fila nessuno. Le manifestazioni si chiamano anche tali... Tor Vergata. Tor Vergata. Devono avere un'incidenza anche sulla cittadinanza, perché non sono manifestazioni. Vabbè, Giulio, risponda lei, io non ne posso più, risponda lei a questo in quella qua. Siccome come al solito fai le cose grossolane, non hai citato fino in fondo l'intervista a quel prefetto che io ho letto in modo dettagliato, perché il prefetto dice anche che è a favore del numero... sulle divise a certe condizioni a patto che nessuno scenda in piazza travisato. Io sono d'accordo con il prefetto, siccome tu io sei sono un comunque contrario non no hai citato, io sono comunque contrario ai numeri nei poliziotti no per ma io intero, ma stavamo parlando di un'altra cosa stavamo non parlando di un'altra non cosa hai citato per intero stavamo citando ma qui non dobbiamo citare per intero non dobbiamo citare per intero ma non c'entra niente tesi che volevi dimostrare sono imbecille sono due argomenti diversi. Dico che lì il prefetto ha ragione quando dice Capra, sono due argomenti diversi, due argomenti diversi. È lo stesso argomento. No, sono due cose diverse. No, il riconoscimento è la cosa che è successa, il cretino dato al poliziotto sono due argomenti diversi. Se non lo capisci, sei un imbecille, come peraltro sei. Nicola da Modena. Tu sei grossolano. Benissimo, io sono grossolano e tu un imbecille. Nicola da Modena. Benissimo. Non sono iperboliche, sono condivise dalla maggior parte delle persone, per fortuna. Nicola da Modena. Nicola da Modena. Pronto, mi senti, Cruciani? Dimmi. Niente, io volevo dire una cosa, no? Ma fammi una curiosità, Cruciani. Sì. Ma è solo Berlusconi che ha evaso o ha frodato il fisco? Cazzo, io non l'ho mai votato, mi sta su cazzo a manetta. Non condivido la sua politica. Tutto quello di male che posso. Ma è solo Berlusconi che ha frodato, che deve andare. Ma no, in Italia è pieno di gente. Ma però mi sembra che solo Berlusconi, adesso ci stiamo accadendo. Ripeto, no, ma in Italia è pieno di gente che ha frodato il fisco. Vedere. Perché lui deve essere così attato e andare in galera qua e là? Vabbè, Nicola, non c'è risposta a questa domanda, perché la sua non è una domanda, perché lei pensa che Berlusconi è un perseguitato, lo penso anch'io in parte. Sì, questo, ma ho capito, ma gli altri... Frodato? Ho capito, ma qui è una cosa diversa, è l'evasione messa in piedi per i diritti televisivi, è un argomento molto complicato, non è quello che non ha battuto lo scontrino, ha capito? Cioè, è una cosa un po' più complicata, cioè, ci sono state prescrizioni, ci sono state... C'è l'accanimento, no? Dì la verità. Sì, ma l'accanimento, ma certo che c'è, ma solo un pazzo potrebbe non riconoscere che non c'è stato un accanimento in questi anni, su, dai, poi... Cazzo. Io stiamo facendo un e lasciatelo andare in mezzo ai vecchi, tanto quello già vecchio, già 80 anni, lasciamo stare. Ma infatti lo fanno, infatti lo fanno andare. Grazie. Ciao carissimo, ciao. Onorevole Gazzi, allora. Come Gazzi? Traffico veicolare a Roma. Se qui tutti pensano ai cazzi suoi, ma fammi pigliare pure i cazzi miei, io. Come Gazzi? Lass uns in den Sommer fliehen, ich weiß auch schon wohin zu Antonio. Endlich wieder Sonne pur, für ein paar Wochen nur. Il meglio di Razzi in pillole. Dolce vita am nachtblauen. Molti giovani in gita a Roma. Te la ricordi questa? Ci sono molti giovani. Giovani ragazzi che stanno in vacanza lì a Roma con le scuole e si fermano e vogliono ognuno fare la fotografia con me. Mi fa un enorme piacere, no? E così fa vedere che anche i giovani sono attaccati alla politica e imparano qualche cosa anche da parte della politica. Io spero che anche questi giovani difendano anche a noi che stiamo lavorando per loro e io penso che questo Crozza ha fatto bene a quello che sta facendo. La premiata coppia Crozza Razzi. Come facciamo a dimenticare Razzi e le prostitute qui alla Zanzara? Com'è che le chiama? Le operatrici OAS, no? Operatrici OAS, sì. Che vuol dire poi? Non ricordo. Operatrici. Operatrici attive sessuali. No, no, acronimo. Assistenza sessuale, una cosa del genere. Vabbè, OAS. Operatore di assistenza sessuale. OAS, operatore di assistenza sessuale, come si chiamava prima, come si chiama lo spazzino, come si chiama il bidello, adesso ci sono tutti i nomi un po', è anche una cosa, un nome non offensivo, mi sembra una cosa più, diciamo, una cosa più delicata, anche perché la donna è sempre una donna delicata, insomma, fragile, insomma, ecco, bisogna rispettare la donna, allora così bisogna rispettarla anche col nome. Hai capito? Bellissima, cioè io le ho chiamate OAS, dice Razzi nel disegno di legge. Questo è anche delicato. Perché è una cosa delicata, modo. Dai, su, perché si possono chiamare zoccole, prostitute, mignotte, io le chiamo così, ma senza offesa, senza offesa. Però uno dei motivi per cui l'amico Razzi ha presentato questo disegno di legge sulla legalizzazione della prostituzione è perché in questo modo, secondo lui, si evita il rischio pam pam con le macchine. C'è anche per regolamentare lo scorrimento del traffico. Quella per strada crea anche un pericolo, perché ce ne sono parecchie. Allora l'uomo che fa? L'uomo è l'uomo, come si dice. E quello già subito tende a guardare, ma chi è quella lì che sta là? Lo vede provocatorio. E magari gira la testa. E poi la macchina avanti, un po' ferma, papam, e succede l'incidente. E si fa la fila perché è successo. Pam pam! Incidente sul lungomare di Pescara di Francavillo, dov'è? Beh, il top fu quando disse: mai usato un preservativo. Lei ha mai usato i profilattici in vita sua, Razzi? No. Mai usati in vita sua i profilattici? No, io perché lo devo adoperare? Ma che ne so. Beh, no, ma assolutamente. Quando era giovane lei dice ha avuto tutte queste donne, qualche volta l'avrà usato in vita sua sto preservativo? No, mai adoperato. Mai adoperato, cioè lei non sa che cos'è un preservativo, non ha mai aperto un preservativo. Fare un po' d'attenzione. Hat mancher sich verirrt zu Antonio. Da sind Nächte aus Träumen gemacht. Seine Sonne scheint hier Tag und Nacht. Und ich höre. Beh, poi c'è il savoir-faire degli italiani, il savoir-faire tradotto e interpretato da Razzi. Sì, allora erano uomini veri che andavano proprio a caccia delle donne, delle belle donne, e dopo noi che eravamo lì in Svizzera, figurati, conquistarle era per noi anche un po' difficile perché eravamo stranieri, però il savoir-faire dell'italianità, insomma, uno che ci sa fare, ecco, l'italiano si è sempre distinto lì in Svizzera. E se si rompe il preservativo, come dire, l'eventualità è prevista addirittura all'interno del disegno di legge di Razzi. Che succede se si rompe il preservativo? Come rimediare? Se si è rotto, che cosa può succedere? Può succedere che ci può un bambino o una bambina può venire, che non si sa. Oppure può succedere che se stanno malati si può ammalare, ecco. Allora uno per prevenzione denuncia l'accaduto e magari... Ma chi denuncia? Lui o lei si controlla. All'ASL. Allora, è con noi, caro Parenzo, un'attrice, sì. Un'attrice che si chiama Vittoria Schisanu. Buonasera. Buonasera a tutti. Allora, Vittoria Schisanu, un'attrice che da poco ha subito un'operazione, come si chiama questa operazione, Vittoria? All'anca. No, che all'anca, che c'entra l'anca? Aspettiamo qualche anno. Vabbè, aspetta, l'anca, quello quando uno è vecchio, no? Più avanti, quando uno ha dei problemi di deambulazione, no? Ancora cammino bene. Esatto, come si chiama? Un intervento di riattribuzione dell'organo. Un intervento di riattribuzione. Queste cose, ragazzi, non ci deve venire da ridere. È inutile, Parenzo, che ti fa venire da ridere, perché sono cose serie, molto serie. Ma in genere uno si opera al menisco. Ma che c'entra? Dai, ma ci sono persone che hanno. Ci sono persone che hanno. Sono nate con dei problemi, perché credo con dei problemi, come dire, di diverso tipo, come Vittoria, che in realtà è. Diciamo che io semplicemente ero nata in un corpo che non mi apparteneva fino in fondo e quindi ho messo equilibrio lì dove l'equilibrio non c'era. Esatto, cioè tu sei nata uomo, diciamo, no? In un certo senso, sì. Io preferisco dire che sono nata forse donna comunque, perché credo che si nasca donna e che non è un intervento a renderti tale. Cioè, come ti chiamavi tu prima? Qualcosina in più, questo sì. Con il corpo di uomo nel corpo di una donna. Esattamente. Giusto. Sì. Innanzutto dobbiamo dire che andrai prossimamente anche al cinema con La vita oscena di Renato De Maria. Dunque sei un'attrice professionista, non è che fai, perché uno ha l'idea che di accoppiare a persone. Tu come ti definisci? Non transessuale, come si dice? No, io sono una donna, una transessuale è semplicemente una persona che sta transitando da una situazione all'altra. Nel momento in cui questo percorso è terminato, sei per la legge, per l'etica donna. E per la morale a tutti gli effetti una donna. Una donna. Ecco, uno accosta il tuo percorso a quello necessariamente di una, di solito, una prostituta, no? I transessuali, eccetera. No, tu... No, guarda, devo essere onesta, questo tipo di preconcetto, prima che mi appartenesse ce l'avevo anch'io, perché anche per me... Anch'io, ovviamente, non conoscendo questo tipo di realtà, anche per me la transessuale era quella che sta la quinta di seno, mi migona a mezzogiorno, che nella migliore delle ipotesi si facesse la escort. E perché questo forse avviene perché i media forse ci raccontano solo quelli, perché magari invece ci sono donne bellissime che hanno completato il loro percorso di cui nessuno ne parla, perché non c'è nulla da dire, perché magari ti passa per strada, tu vedi una bella donna e nemmeno proprio ti viene l'idea che ci potesse essere. Beh, dalle foto che vedo su Vanity Fair, che ti ha fatto una piccola intervista, insomma, Parenzo, è veramente una bellissima donna. Cioè, tu guardo immediatamente su Google, così la Google un attimo. Ma volevo capire come si chiamava lei prima di questo Giuseppe, credo, no? Giuseppe, o sbaglio? Beh, anche tu puoi fare. Allora anche tu. Ma che c'entra? Io mica sono nato. Migliorare. Ma perché devi sempre fare queste battute ridicole? No, io anche tu hai. Ma io sono migliorare. No, per io non posso, non è questione di migliorare o peggiorare. Io mi chiamo Giuseppe Cruciani, non ho avuto i problemi che sono sicuramente dei problemi importanti che ho avuto. Lo dici tu. Ma no, guarda, io non ho. Noi potremmo raccontare cose diverse, però. Vabbè, andiamo d'accordo. Avanti. Però io voglio dire una cosa, Vittoria. Volevo capire la signora, ma il tipo di operazione, no? Che mi sembra piuttosto invasiva, no? Adesso nel voglio. Perché è delicata, che nel mio caso è durata 10 ore, non è uno scherzo, non è di farsi. Cioè, come funziona la cosa? Uno dice, beh, te lo sei tagliato, no? Invece no, non è così. No, non è quello, perché oggi la medicina ha fatto passi da gigante in avanti, quindi hai un vero e proprio nuovo organo con tutte le funzioni, quindi non. Cioè, non hai una vagina, è nuova, una vagina nuova. Sono sono andata vergine a 30 anni, diciamo così. Vergine a 30 anni? Sì. Ma sei stata già, hai fatto già il passaggio dal passaggio che c'è dopo, no? Su una vergine no, viene... No. Ancora no, se ho capito la domanda ancora no, diciamo ancora che no. Sono indigenza. Cioè sei ancora... Ah, perché non puoi... Perché non può. Cioè, sei ancora vergine dopo l'operazione, questo voglio dire. Esattamente, sì. Capito, Parenzo, a 30 anni è sì. Vergine. No, no, sei è questo, lei so che bellissima, è bellissima questa. No, ma no. Andare nei dettagli. No, ma io non sono dettagli. È diversa, no? È un discorso essere vergine a 15 anni, un discorso esserla a 30. Sicuramente è una consapevolezza di te che è diversa da quella che può avere un adolescente, quindi... Ma insomma, sei eterosessuale? Tu sei eterosessuale o omosessuale? Cioè, ti piacciono... Mi sono sempre piaciuti gli uomini da sempre. E insomma. La voce, la tua voce, che è una voce molto, si vede, insomma, una voce, quella che si definirebbe una voce trans, no? Io parlo sempre per stereotipi, anche se poi non ci credo troppo agli stereotipi. Tu ce l'avevi anche quando eri maschio oppure con l'operazione è cambiata pure la voce? No, solo... Ma diciamo che la mia voce è questa più o meno da quando ho iniziato le cure ormonali. Ah, ok. Cioè, è cambiato un po' nel tempo. Che tu legga una voce transessuale, però che ti devo dire? Io la considero una voce femminile. No, è una ci voce femminile. Ci sono donne che hanno una voce più alta, altre più bassa. È una questione. Vabbè, non bisogna mica vergognarsi. No, assolutamente, non ho mai nascosto nulla, figuriamoci se no, mi vergogno. Ma io, figure, non volevo nemmeno essere. Non è che volevo dire una cosa offensiva. Volevo dire che. Forse perché lo so, perché magari se ti sentissi per telefono normalmente. Forse perché lo sai, forse anche perché io, ad essere onesta, senza mettere etichette a nessuno. Non mi sono mai sentita una transessuale, mi sono sempre sentita una donna nata con qualcosina in più, che è un altro capitolo, perché quando sei donna nella testa, lo sei anche nel corpo. Ci sono delle persone che fanno questo percorso e rimangono uomini con le tette, perché nessuno ti insegna ad essere una donna. Quando invece lo sei nella testa, lo sei nel cuore, lo sei nell'anima, è quello che fa la differenza. Quindi io la differenza che tendo a fare tra belle e brutte persone, ma non tra uomini e donne, per esempio, colori o fasce politiche. Sì. Ma le tette, per esempio? Sono delle bellissime tette. Ma sono sono anche queste. C'è stata diciamo un'operazione. Con le cure ormonali era venuta una seconda. Io, insomma, volevo un seno un po' più mediterraneo. Sono arrivata ad una quarta. Cioè, tu capisci, Parenzo? Io veramente avrei il terrore di fare tutte queste cose. Capito? Il terrore. Il terrore. Io non so perché. Tu no, Parenzo. Io avrei il terrore. Io, veramente, guarda, quelle persone io... che affrontano queste cose, che peraltro in Italia, secondo me, incredibilmente sono gratis, certo. Perché vengono rimborsate. Sei stata rimborsata allo Stato italiano, Vittoria? No. Sono stata rimborsata, mi sono pagata tutto di tasca mia. Dove? E sono d'accordo quando tu mi parli di terrore, è un terrore che apparteneva anche a me, però il terrore più grande era quello di vivere una vita che non mi appartenesse e quindi una vita non mia, che sarebbe un grande spreco. Quindi diciamo che tra le due paure ho scelta quella minore. Sei cattolica? Sì, assolutamente. Cattolica, cattolica. Sì, sono cattolica, credo non moltissimo nella Chiesa, che forse è una forza politica, però sicuramente credo in Dio, ho avuto un insegnamento religioso cattolico ed è quella la mia religione. Capito, Parenzo? Com'è? Sì, la cosa che mi incuriosisce di più è il fatto che la testimonianza della signora Vittoria non sia stata raccontata, ad esempio, dal signor Barisoni a Focus Economia, ma alla Zanzara. Che ormai ma quello è normale, scusa. Cosa deve, deve raccontare la signora Vittoria Schisano Barisoni? L'economia del cambio sesso? Come no? Anche quello. Che sono fastidiose, però posso creare un movimento, diciamo così. Ma quanto ci ha messo tu a diventare donna? Il mio percorso è stato molto veloce, un po' perché sono una persona che quando vuole una cosa, insomma, la prende con prepotenza, un po' anche perché avevo una predisposizione genetica. Io ho scoperto durante il mio percorso di essere nata con il 70% di ormoni femminili e con una vena non sviluppata, quindi, come dice il mio medico, non sono un ragazzo che è diventata una ragazza, ma una ragazza che è nata con qualcosina in più. Senti, quindi... senti Vittoria, ma l'operazione, adesso non voglio far inorridire gli ascoltatori il giorno di Pasquetta, però... No. L'operazione, che cos'è? Cioè, portano in, che fanno con l'oggetto, cioè col pene? Che succede? Guarda, devo essere onesta, non ho fatto tantissime domande, un po' perché la parte medica spaventava me per prima. Ma non lo tagliano, non è che tagliano. Mi sono chiesta quello che è il risultato. Ma lo tagliano, no? Dovresti chiederlo al medico. Dai, che lo sai, su. Ma no, che non lo so, faccio una parte di intimità, cioè, che è giusto che rimanga tale. Come ricostruiscono, per esempio, come costruiscono dal punto di vista materiale la vagina? Chiederlo a un chirurgo, non a me. Davvero, sono domande che non ho fatto. Cioè, tu sei svegliata e ti sei trovata con la... E finalmente mi sono guardata allo specchio e finalmente ho detto, mi somiglio oggi. Ma che mondo, direbbe l'avvocato. Finalmente mi sono sentita con qualcosa in più, non con qualcosa in meno. Qualcosa in meno. Ah, diritto di sentita con una cosa in più e non con una cosa in meno. E come te la sentivi? Essere donne sì, è un grande privilegio. E come te lo sentivi? Come un corpo estraneo? Assolutamente no. No. Come qualcosa di mio, qualcosa che mi è appartenuto da sempre. Ah, capito? Per me, guarda, io sono... In questo momento sto pensando e sono... Lo so che stai pensando. Lo sai che sto pensando, lo sai. Senti, ma ti sposeresti in chiesa? Cosa? Ti sposeresti innanzitutto, prima? Certo che sì. E in chiesa? Sì. Ma secondo te la Chiesa Cattolica farebbe opposizione a cose di questo tipo, Parenzo? Ma secondo me adesso, questa è una questione intelligente. Secondo me no, perché a tutti gli effetti... È donna, per lo Stato italiano è donna. Certo, ricordare che comunque Gesù non ha mai negato l'amore, no? Io credo che l'amore e la famiglia ci sia lì dove ci siano due persone che si amano, quindi... Però credo, cara, che adesso nel giorno di Pasquetta... evocare dopo il suo intervento legittimo al suo corpo Gesù mi pare come perché dire, che po', c'è no? Ma non è mica, no, non mica so, si è mai occupata di transessualità di operazioni altre. La Chiesa Cattolica che c'entra. Ma vabbè appunto, ragazzi appunto. Vi devo salutare che abbiamo chiuso. Ciao Vittoria, a presto, un abbraccio a tutti, ciao. Ci sentiamo domani ragazzi 18:30. La Zanzara vive e lotta insieme a voi. Ottima trasmissione, sempre la migliore. Voi ci dovete far bellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, alle 8, ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Non è vero niente. Radio 24. La passione si sente.